Nerdcast, puntata 1-6. Bentrovati carissimi ascoltatori e carissime ascoltatrici di questo podcast sempre più nerd, sempre più attivo. Come vedete stiamo sfornando rubriche e puntatacce da ormai una volta a settimana. Comunque siamo super gasati, super attivi. Qui è Rampage. Murtag Devil Sin nome 2, Garriden, quello che vi piace a voi. Ti chiami Garriden e non seccare. Ok, Garriden. In tanti modi, tra cui Garriden. E infine Malloman. Oh, benissimo. Bene, allora. Con il suo microfono, diciamo, super. Sta parlando dall'interno della sua armatura da Iron Man, visto che è uscito il film da poco. Comunque, evitando queste cagate, diamo i contatti per iniziare. Potete trovarci su Twitter come Nerdfats, che sarebbe l'account di Murtag, ma che in realtà è comune, perché Murtag, cioè non si capisce molto bene di chi sia quell'account. Diciamo che è molto condiviso, molto comunista. Poi ci sono io, che mi trovate come Wish Freedom, c'è Garriden, lo trovate come Devil Sir 92, e c'è Malloman, che lo trovate molto fantasiosamente e coloritamente come Malloman. Ottimo. Ricordo che sono uscite le prime puntate delle tre rubriche che vi avevamo promesso nell'ultima puntata, quindi senza indugiare oltre andate sul nostro blog e le troverete, che ricordo essere nerdcast.blogspot.com. Sbagliato. Seguiteci anche sulla bla bla bla bla nerdcast.blogspot.com. continua pure. Poi no, dici, senti, che vuoi però condurre tu? Si lamenta, scusa. Vuoi che... condurre tu? Ho sbagliato. Questa non la tagliamo. Questa non la tagliamo. Continua. Dai, continua. Dai. Vabbè. Nerdpodcast.blogspot.com. Adesso abbiamo anche un canale di YouTube che accoglie unicamente la mia rubrica per il momento. Magari dopo servirà anche a qualcos'altro. E niente, penso che sia sufficiente per iniziare e attaccare con le nostre nerd news. Nerd News. Benissimo, allora propongo di iniziare queste nerd news con quella di Garriden, che forse è la più noiosa, come al solito, essendo lui una persona noiosa. Quindi prego Garriden, a te la quanta parola. Gentilezza. Ragazzi, guardate, avevo intenzione di dirlo nella mia rubrica, ma la mia rubrica Sturmovik è quella di Luca. Sono in guerra, ok? Tenete, io e Luca siamo in guerra, ok? Quindi abituatevi a tanta amarezza, sia in questo podcast, sia in qualunque altra trasmissione, ok? È cominciata, Rampage, testimone? Mm-hmm. Sì, testimone. Molto, molto bene, molto bene. Detto questo, la mia news è riguardo i nuovi videogames in uscita questo mese. Sono molto gamer, in questa puntata vi racconto tanta roba gamer. Sostanzialmente una buona parte dei titoli di cui volevo parlare sono già usciti e me li sono fumati, quindi perché la puntata la registriamo con un po' di ritardo. Nonostante questo, io vi consiglio di darci un'occhiata. I titoli che ho scartato e che sono già usciti sono Ryzen 2, che senza dubbio è una grande promessa, non vi svelo nulla per quanto riguarda il time to play, dove porterò il suo predecessore, e vi consiglio di dare un'occhiata, ora che ci siete, ma questo direi che è piuttosto scontata, anche a Diablo 3. Direi che se non scaricate Diablo 3 chiudete il podcast, perché non vi vogliamo. Garriden, mi dica. Scaricare, forse scaricare... Io non lo faccio con tutte le aspetta, ma voi non capite. Io sto spingendo il mondo a utilizzare l'acquisto online. Avete una cosa di paglia, Come bisogna fare? Io non lo so come bisogna fare. La finanza verrà a trovare te e Malloman in un giorno solo. Io ma che c'entro? È sempre io ci colpo alla fine. Vabbè, e siamo a due, cioè io non lo so. Vabbè, continua. Sì, fatti divertenti, che poi andiamo a vedere voi. Su, comprati i giochi su Steam. Muoviti, continua. Ok, detto questo, vabbè, scherzi a parte, il gioco che veramente mi ha entusiasmato non è onestamente né Ryzen 2 né Diablo 3 né simili, ok, un'eresia, Diablo 3 mi ha entusiasmato, però più di tutti mi sta a cuore The Secret World. Ora, non ricordo, mi pare di averne già parlato tempo addietro, in qualche modo ve l'avevo accennato che questo sarebbe stato un giocone a mio parere. Con il tempo l'attesa, devo dire, è diventata spasmodica. Ci sono un sacco di articoli interessanti su questo gioco e adesso sicuramente mi staranno per fischiare gli altri ragazzi. Ragazzi, il creatore di questo gioco, ok, dietro ci sta colui che ha scritto The Longest Journey. Ok, vogliamo mettere e senza dubbio we have a better seer. Senza dubbio. Dai, è uno dei giochi che a me sembra più interessanti. Prima cosa, parliamo al di là dell'idea, della storia, dove c'è dietro Ragnar Thornquist, ci sta anche il team della Funcom. Io credo che Age of Conan sia un gioco che ricordavate, se non questo Anarchy Online, che era più o meno sulla scia. Insomma, ha tutte quante le premesse per diventare un giocone. A parte le premesse, guardiamo le promesse. Le promesse sono quelle che ci aspettiamo da un bel MMORPG che non sia ambientato nel Medioevo, ok? Ci aspettiamo un Secret World piuttosto moderno, un pochino a spasso per il mondo, ok? Ci saranno più scenari, più parti del mondo, diverse architetture da vedere, ok? Sostanzialmente. Ma c'è di più, Thornquist dice addirittura che ci sarà un vero e proprio balzo temporale nel gioco, ossia si attaccherà il moderno a quelli che sono dei miti, delle leggende, insomma tutto ciò che è folcloristico del mondo antico. Che ne so, ragazzi, insomma, per dirla un po' alla Voyager, ci sono i fottuti templari, ok? Quei templari che si ficcano da tutte le parti in Deus Ex, in giochi simili, ci saranno anche in The Secret World. Io sono davvero curioso di vedere come tutta questa roba si accozzerà nel gioco e che effetto farà. Nel tempo, devo dire, sono usciti degli screenshot simpatici, non sono proprio in game, o meglio non credo siano in game, devo essere onesto, io ormai non credo più a questi screenshot, però danno l'impressione di un qualcosa fatto bene, di una, diciamo, di una buona base per un gioco. Io spero davvero sia così. Non mi piacciono alcune cose riguardanti le classi e i livelli. Si è parlato di una grande rigiocabilità del titolo, ma io non la mando molto giù, nel senso che Thornquist ha detto che sarà facile passare da un personaggio a un altro, provare più strade. Questo può essere bello, può non essere bello, questo sta a voi. Di sicuro chi ha giocato World of Warcraft ed era abituato a scrivere Warrior ed era un Warrior si troverà un pochino spaesato, e parliamoci chiari, questo gioco cozzerà anche con giochi come World of Warcraft e simili. Quindi, che ne so, ragazzi, io vi ho messo un pochino in testa l'aspettativa, almeno quanto l'avevo io. Date un'occhiata agli screenshots, tenete d'occhio questo titolo. Io spero sia davvero una rivelazione e non un gioco da 7, come molti lo hanno definito quando è stato annunciato, ok? Detto questo, io chiudo la mia news, perché davvero The Secret World per me è l'unica cosa al momento degna di nota. C'è un Max Payne 3, ma in tutta onestà mi è sembrato molto chiacchiere e poco roba godibile. Sarà anche che Max Payne 2 è un titolo lontano, ragazzi. 2003 è piuttosto lontano e io ho perso onestamente l'aspettativa per la serie. Tra l'altro Max Payne 2 mi ha lasciato un pochino l'amaro in bocca, ecco. Io con questo chiudo la mia news, do la parola a voi, ho parlato anche abbastanza, direi. Vostri pareri? Sì, no, allora volevo dire questo. Allora, prima cosa di tutto, Garriden è estremamente di parte. perché allora dovete sapere voi che per lui The Longest Journey è tipo il gioco della vita. Se non giochi The Longest Journey sei uno schifo probabilmente, no? E il bello è che oltre a lui forse nessuno di noi tre l'ha giocato, credo, non lo so, correggetemi. Io ci ho provato ma mi crashava il computer ogni due minuti. Mannaggia. Siete dei gamer di quarta categoria. Anche se ammetto di essermi rotto i coglioni dopo l'intro sostanzialmente. Comunque, no, vorrei dire soltanto questo adesso. È uscito Diablo 3. Sta per uscire Max Payne 3, usciranno tantissime altre cose nelle prossime settimane. Lui che va a vedere il gioco del produttore di The Longest Journey. Allora, si dà il caso che sia un gioco attesissimo. Se poi voi siete dei pipponi mainstream non è colpa mia, ok? Da te e da quanti altri? Va bene, allora, andate tutti quanti a fanculo, ok? Va bene, continuiamo, dai. Vai, prego, va bene, prego. Va bene. Siccome siamo in vena di giochi che stanno per uscire e a noi piace parlare soprattutto sempre dei soliti giochi su cui spalliamo merda senza ritegno, vi voglio parlare di The Elder Scrolls Online, ragazzi. Non siete felici di questa cosa? Ce lo siamo sorbiti in single player, adesso ce lo ritroveremo sicuramente a breve in multiplayer. Ci sono grandi promesse per questo gioco. Intanto i produttori dicono che farà concorrenza a World of Warcraft, che si porterà tutto il massive multiplayering che esiste delle ultime generazioni. Insomma, che dicono tante cose, ma le dicevano anche prima che uscisse The Elder Scrolls, insomma. Quindi non so quanto siano affidabili queste. Dai rumors che sono usciti fuori, dalle screenshot, insomma, quello che vedo, a parte il fatto che io ho notato una grande somiglianza con Lineage. Non so se ci avete fatto caso dalle screenshot. Io ho notato una grande somiglianza con Skyrim, diciamo. Vabbè, anche ovviamente. Però no, come grafico, non so, c'era qualcosa di Lineage che ma sai che me lo ricordavo, insomma. Sì, no, concordo. Comunque, diciamo, parliamo un po' di come è strutturato questo gioco. Con molta fantasia esistono le fazioni anche in questo multiplayer. Ci sono tre fazioni, non so dirvi i nomi che non sono capace di pronunciarli. Poi ci saranno delle gilde, oltre a queste fazioni, fatte di guerrieri, ladri, maghi e dalla confraternita oscura. Quindi tutto molto, cioè non c'è molta originalità in questo. L'obiettivo del gioco online sarà quello di mantenere il controllo della città imperiale da parte delle fazioni. Il giocatore più potente, non sono chiarissime le notizie riguardo ciò, sarà l'imperatore della capitale. E oltre a questo, ovviamente, comunque non mancheranno raid, dungeon, missioni. Comunque un MMORPG molto, molto, molto standard, a me sembra. L'unica cosa che mi ha colpito, tra virgolette, è che il combattimento, i combattimenti non saranno in tempo reale per questioni di latenza, ma saranno bilanciati. Ora, io non so esattamente come tradurre in termini videoludici questo bilanciato, però insomma, voi come lo vedete? Un gioco di quel tipo in cui tu trovi un personaggio, diciamo un altro avatar nella mappa, magari vuoi andare ad ucciderlo perché è di una fazione antagonista e non puoi fare il classico combattimento alla World of Warcraft, voi che ne pensate? Allora, da quello che ho capito, visto che comunque non è tutto ancora confermato, ci saranno le zone PvP, quindi credo che una cosa del genere verrà un attimo regolamentata meglio. Più che altro, io credevo che gli MMORPG stessero un po' morendo tutti quanti. Non lo so perché avevo questa impressione, quindi non mi aspettavo così tanto un MMO, soprattutto poi di Skyrim. Prima cosa, riprendo una notizia che abbiamo dato quasi un anno fa, non so se la ricordate, di un MMO su Fallout, che vabbè ricordiamo sempre fatto da Bethesda, la stessa che ha fatto Skyrim eccetera, in latenza per sempre. Sì, io credo questo, credo che prima cosa di tutto questo MMO su Fallout sia cancellato. È il vero MMO su Fallout di cui si chiacchierava tanto è questo in realtà, sì, credo sia questo, perché non credo faranno un MMO sul mondo di Elder Scrolls e un MMO sul mondo di Fallout, è una cosa abbastanza inutile secondo me. Secondo me faranno questo MMO su The Elder Scrolls, verrà più o meno bene, io non so perché, immagino che ci sarà un bel po' di lag, anche perché il mondo è parecchio esteso, poi immagino che la grafica sarà super spaziale eccetera. Non lo so, io aspetto, vediamo un po' che cosa ne esce fuori. Devo dire la verità, come gli FPS, anche gli MMO stessi, soprattutto quelli fantasy, perché ormai quelli sono i veri MMO unici, mi stanno un po' scadendo, un po' mi stanno seccando, devo dire la verità. Forse sarò uno che ha giocato WoW per troppo tempo, è possibile, anzi è così. Però, ecco, aspettiamo notizie un po' più certe. Per ora la mia, diciamo, la mia opinione è questa, che non me ne frega più di tanto, sinceramente. Io voglio un attimo vedere che cosa farà Bethesda per, diciamo, uscire da questo filone Fallout, Skyrim. Vediamo se riesce a fare anche qualcos'altro. Vediamo come organizza anche il prossimo Fallout, che, vabbè, io almeno personalmente preferisco a Skyrim. Niente, osserviamo e basta. Preferisci... No, non ho capito l'ultima frase, scusami. Preferisci a Skyrim o preferisci Skyrim? No, no, preferisco Fallout a all'intero The Elder Scrolls in realtà. Ah, benissimo. Anche se la gioca bene con Morrowind, quindi... Beh, Morrowind è un giocone in effetti, eh. Non è semplice, non è semplice. No, infatti mi riallaccio a quello che stavi dicendo tu. Voglio dire, per uno che ha giocato per molto tempo giochi come World of Warcraft o anche altri giochi, diciamo, di multiplayer di massa, non ci sono effettivamente delle grandi innovazioni, no? Quindi sì, è tutto molto... Per questo ho detto la news con abbastanza disillusione prima anche. Cioè, tutti questi morpug che escono... Io mi aspettavo tanto il gioco di Fallout, per esempio. Purtroppo non... Come hai detto tu, molto probabilmente, penso sia una visione abbastanza verisimile la tua, non uscirà mai e si dedicheranno interamente a The Elder Scroll. Questo mi lascia un po' l'amaro in bocca, insomma, però... Ma ci vorrebbe qualcuno che portasse un poco di, non lo so, di qualcosa di nuovo nei giochi in multiplayer, insomma, di questo tipo che noi conosciamo e che ci piacciono comunque. Sì, ma infatti c'era Malloman che ok. Sì, ma infatti no. Dicevo, anche io concordo, no, con voi due quando dite, e secondo me era meglio un Morpug su Fallout, perché comunque lo stile fantasy ormai è parecchio inflazionato, no, nei Morpug. Quindi almeno Fallout a livello di ambientazione, di storie, di feature è diverso. Quindi io sinceramente avrei preferito di gran lunga il Fallout Online rispetto a The Elder Scrolls Online. Sì, se posso, è quello che diceva Rampage, giustissimo, nel senso, cioè, fare un The Elder Scrolls significa, in altri termini, in termini molto più semplici, praticamente continuare sul filone degli MMORPG. E che cosa deve fare un MMO sul mondo di The Elder Scrolls? Deve cercare di prendere pubblico, chiaramente, a The Old Republic, a World of Warcraft e a tutti gli altri. Invece un MMO su Fallout, che sì, chiaramente ha degli elementi fantasy, ma non gli elfi, i nani, gli orchi. Pure, vabbè, gli orchi volendo ci sono, però ha degli elementi fantasy, ma in alcuni casi è abbastanza realistico, anzi è molto realistico, anzi c'è una componente realistica che io molte volte ho sentito in Fallout. Quindi un MMO su Fallout avrebbe rivoluzionato un attimo il genere degli MMO. Perché il gioco di massa ormai si sta spostando o tutto FPS, dove sei su una mappa, loghi, prendi e spari, o tutto il RPG dove ti fai il tuo maghetto, il tuo guerriero, vai in giro, uccidi, sali di livello, poi ti secchi dopo 2 settimane. Invece un bel MMO su Fallout sarebbe stato davvero una bella novità, cosa che, ripeto, cioè, almeno secondo me non accadrà più in questo caso, perché fare 2 MMO su 2 brand diversi della stessa casa, dello stesso developer, un po' mi sembra un po' strano, però ecco, già questo. Beh, un'altra cosa veloce è, appunto, comunque su Fallout Online c'è una questione legale tra Interplay e Bethesda, quindi in realtà è in progetto da vari anni Fallout Online, però per queste questioni legali, chi ha i diritti, chi no, insomma, ancora non è possibile portare avanti il progetto, e quindi mi sa che Bethesda, in un certo senso, andando a sviluppare The Elder Scrolls Online, abbia accantonato, mi sa, questo progetto. Sì, cioè, secondo me sì, ma perché comunque non ha senso che mi proponi 2 MMO. Tu che fai 2 giochi alla fine, perché Bethesda fa quello. Però da un altro lato, possiamo dire che se Fallout non lo faranno online, comunque sull'offline ci lavoreranno un po' di più. Quindi significa che dovremmo aspettarci un prossimo capitolo di Fallout completamente diverso, anche migliorato, eccetera. Quindi, insomma, non è proprio negativa come cosa il fatto che Fallout non sia un MMO. Ma sì. In fondo ha ogni cosa i suoi lati positivi e negativi, insomma, scadendo un po' nella banalità per chiudere questa news che si è portata avanti per ore, diciamo. Quindi direi che è tempo di cambiare. Murtag, parlaci un poco di questo controversissimo Mass Effect 3. Oh, dai. Mamma mia. Allora, devo dire la verità. La community nerd, di solito a me, in generale, mi è sempre stata antipatica, per vari motivi. Soprattutto perché, secondo me, la maggior parte dei videogiocatori non ha veramente rispetto di quello che c'è dietro un videogioco. Ci sono developer, ci sono soldi, ci sono programmatori che spendono tantissimo tempo per fare un gioco. Allora, le controversie su Mass Effect 3 hanno dimostrato definitivamente che c'è una fetta molto ampia di videogiocatori che non mostrano nessun rispetto, ma proprio per niente, per nulla. Loro vogliono soltanto il prodottino che metti nel computer, che ti fa sparare e che ti porta, insomma, ti fa salire di livello, eccetera. Solo quello. E se non gli piace la storia, allora succede un casino, perché loro volevano quella storia. Allora, cosa è successo su Mass Effect 3? Sono polemiche un po' vecchie, però le riprendo per la questione del DLC. Probabilmente molti di voi sapranno che Mass Effect 3 ha avuto questo finale molto controverso, che non è piaciuto quasi a nessuno. A me è piaciuto, ma ne parlo dopo. Un finale molto controverso. Allora, che cosa hanno deciso di fare i gamers? Protestiamo contro EA, protestiamo contro BioWare, ci facciamo cambiare il finale perché a noi non piace. Azione pazzesca, cioè non ha nessun significato, perché se un gioco ha un finale o anche 2 o 3 finali, quelli là devono rimanere, non li puoi cambiare. Però che cosa fa EA? Dice: ah, questo finale non è piaciuto a nessuno, allora facciamo così, facciamo uscire un bel DLC gratuito che fa cambiare il finale. Allora, stupidi videogiocatori, ma molto più idiota, secondo me, EA ad assecondare queste cose, perché facendo così, secondo me, la cosa la complichi e basta. Tra l'altro, non è tanto questo il problema di Mass Effect 3 e diciamo l'errore di EA, secondo me. L'errore vero e proprio è stato per il primo DLC di Mass Effect 3, che era From Ashes. Dunque, magari qualcuno di voi già lo saprà, From Ashes è un DLC a pagamento, quasi 10 euro diciamo, 800 BioWare Points, che permette di sbloccare un personaggio aggiuntivo, che è un Protean di nome Javik, vabbè. Che cosa succede? Che questo personaggio aggiuntivo non viene aggiunto dal DLC. Il personaggio aggiuntivo è già all'interno di Mass Effect 3, senza DLC. capite bene dove sta la contraddizione. Cioè EA fa uscire un DLC che mi sblocca qualcosa all'interno del gioco, che è già all'interno del gioco, e che io, avendo comprato il gioco, non posso usare, di cui non posso usufruire praticamente. Quindi loro mi fanno spendere 10 euro praticamente per cacciarmi per modificarmi delle righe di testo, praticamente di codice all'interno del gioco. E questa mi è sembrata una cavolata immensa. Tra l'altro, se volete proprio saperlo, ci sono anche i metodi, c'è un video su YouTube che dura 30 secondi che mostrano come sbloccare il Protean avendo soltanto il gioco senza il DLC. Questa è stata la prova che ha appunto definitivamente messo un punto su questa storia, perché gli stessi sviluppatori, la stessa EA ha detto no, ma noi non metteremmo mai qualcosa di importante come un personaggio all'esterno del gioco, non lo faremmo mai fuori dal gioco se non per un DLC. Eppure l'hanno fatto, eppure il Protean è in Mass Effect 3. E com'è che lo puoi sbloccare dando 10, cioè praticamente noi stiamo dando 10 euro a BioWare perché un programma che si installa con Esegui, no? Ci cambi qualche linea di codice, così, che possiamo fare anche noi manualmente, e noi abbiamo sprecato 10 euro. Cioè, io adesso, sinceramente, adesso vorrei sapere anche la vostra, mi sento legittimato, se ho pagato Mass Effect 3 60 euro, mi sento legittimato a farne quello che voglio anche del codice interno. Perché se io ho pagato per quel dannatissimo disco, e se io riesco ad entrare, e se io riesco ad entrare all'interno di qualche dato, come appunto posso fare col Protean, io lo posso fare. E secondo me, io che comunque cerco sempre di difendere la legalità, secondo me una cosa del genere è giusta, perché tu non puoi farmi, non puoi prendermi in giro, prima cosa, perché se tu metti qualcosa che è all'interno del gioco e non me lo fai giocare, perché è una cosa proprio inutile, da suicidi, che cosa fai? Perché devi farmi, è come fare un livello e tu non mi dai la possibilità di giocarlo. Che senso ha? Sei un mentecatto, non lo so. Che ti è venuto in mente? Mi devi far pagare 10 euro in più perché devo giocare col tuo personaggino di merda? Ma andate, vabbè, lasciamo stare, insomma. La cosa è che tutto ciò che è all'esterno di Mass Effect 3 è stato pessimo. Il marketing di EA e di BioWare è stato pessimo. Vorrei sapere pure la vostra, adesso che mi riprendo da questa incazzata. C'è Garriden che vorrebbe dire sì, qualcosa. No, mi sveglio dal silenzio per dire semplicemente che, in tutta onestà, o la feature c'era nel gioco o la feature non c'era. Il DLC mi sembra già abbastanza un furto di suo, non so se sarete d'accordo. Cioè, l'abbiamo già detto questo in altre puntate. Esatto, dico ok, senza dubbio la presa in giro, magari una botta, però la DLC è già un furto. Non so se vi ricordate, poi tra l'altro, giusto per aggiungere, la storia di GTA San Andreas aveva una mod strana che ora non ricordo come si chiamava, Coffee qualcosa. Hot Coffee, grazie per avermi ricordato. Che insomma sbloccava un mini contenuto. Io, guarda, chiamarlo pornografico mi fa pena, non era neanche tanto pornografico, ok? Un mini contenuto che era in game, ok? Però per questa storia GTA San Andreas in un paio di paesi si è dovuto beccare qui torniamo al Nerdcast dell'altra volta, si è beccato il bollino rated come sexually explicit, tutte quelle puttanate là, nonostante fosse una feature nascosta. Quindi queste feature nascoste contano, ok? Contano. E allora perché contano e ci dobbiamo buttare i soldi? Qui è il punto. Però sì, guarda, però scusami, il fatto è che qua, allora, c'è una differenza tra comprare un DLC che ti aggiunge roba nuova e comprare un DLC che va a modificare, adesso non so i termini tecnici, però va a intaccare qualcosa che all'interno del gioco che già tu hai per sbloccarti nuove cose. Io non capisco la logica. Guarda, purtroppo perché è un qualcosa, scusa, che nell'industria c'è, se ci pensi. Come quando vai a comprarti la tua scheda video, una buona parte delle schede video sono tutte sulla stessa base, solo che sono cappate a livello hardware. Almeno questo accadeva un po' di tempo fa. Cioè tu ti compri una GeForce di un certo tipo, puoi sbloccarla al tipo successivo se solo riuscissi. È una cattiveria, ma si fa. No, però con tutto il rispetto per le schede video, ma qua stiamo parlando comunque di qualcosa di diverso, secondo me. Scusami, tu programmatore, no? Ma ci perderai del tempo a fare la figura del Protean, a fargli i dialoghi, la storia e tutto quanto? Perché me lo devi mettere? Ma tra l'altro me lo mettono nel gioco, è questo che mi dà fastidio. Me lo mettono nel gioco e me lo tengono nascosto. E siccome io quel gioco l'ho comprato, sinceramente mi sento in diritto di fare quello che posso per sbloccarmelo senza andargli a dare 10 euro per un DLC, tra l'altro. Sì, ma infatti, merda, guarda, non proteggo nessuno. Infatti è veramente ridicola come cosa. Se è una presa in giro a te che butti i soldi. È anche da dire che va, questo discorso va a toccare delle cose un po' delicate. Cioè, effettivamente tu quel codice, parliamoci chiaro, non l'hai comprato, perché loro nei loro contratti non ti dicono che il codice è aperto. Il codice è quello, tu non dovresti neanche sfiorarlo, per così dire. Sì, questo è vero. Cioè, nel senso, mi sento però legittimato, sai, è come aver comprato una demo. Non so se mi spiego. Hai presente le demo che tu le apri, poi ti dice: vabbè, se vuoi continuare, allora devi comprare il gioco. Uguale, no? Eppure è lì il gioco, dici. Eppure è lì, cioè, capito? È una cosa fastidiosa. Non è neanche, come diceva lui, una DLC esterna, diciamo, una cosa che non c'è fisicamente. È una cosa che tu hai comprato. È proprio. Comunque, no, siamo d'accordo, direi, con Murtag. Noi stiamo parlando di questioni burocratiche, però la bastardata c'è, direi. No, assolutamente. Comunque io penso che questa faccenda sia abbastanza vergognosa, sia da un lato, come avete detto voi, che dall'altro. Cioè, ma sti player hanno ottenuto davvero il parziale rimborso da Amazon del costo del gioco perché non gli piaceva il finale? Ma stiamo scherzando? Cioè, ma siamo una massa di bambini che piangono perché non gli è piaciuta la storiella della buonanotte? Esatto, io questo volevo chiedervi, in effetti, perché, cioè, oltre al DLC, la seconda cosa abbastanza strana, per non dire idiota, è appunto il finale. Perché, allora, una cosa è che il finale non ti piace, però dici: vabbè, questo è il finale, lo accetto. E quante volte vi è capitato di dire: vabbè, ho finito questo gioco, ma sinceramente il finale non mi è piaciuto? Può capitare, però sicuramente non vai a scrivere alla EA per dire di cambiare il finale perché non ti è piaciuto. Ma scusa, ma EA l'ha creato Mass Effect, ha creato tutti i personaggi di Mass Effect, ha creato la storia, ha creato il brand Mass Effect, ha creato il nome, no? E avrà il diritto di scegliere una, due, tre, cinque fini diverse, scusatemi. Che diritto hai tu? Ok, lo compri il gioco, ma che diritto hai tu di andare da chi ha creato qualcosa a dire: no, guarda, non mi piace, cambiala? A me questa cosa sembra abbastanza paradossale e mi fa pure schifo, perché se stiamo andando così, cioè stiamo andando in questa direzione in cui i videogiocatori maleducati, per non usare altri termini, diciamo, hanno il potere di cambiare tutto. Allora io decido da un giorno all'altro che il finale di Final Fantasy VII non mi è piaciuto, lo voglio cambiato, adesso Square Enix non lo deve cambiare. Ma che logica è? Io non capisco, sinceramente. No, ma infatti, cioè, è allucinante questa cosa comunque. E poi soprattutto per rispondere al fatto dei DLC, comunque è un problema un po' in generale. Cioè, i DLC proprio nel 90% dei casi sono una grande fregatura, perché effettivamente non aggiungono nulla di nuovo alla trama. Sostanzialmente ti fanno usare parti del gioco che vengono nascoste apposta. E quindi, cioè, perché tu fai una cosa per poi non farmela utilizzare? Anzi, ti devo dare dei soldi per utilizzare una cosa che comunque è già presente nel gioco. E quindi è semplicemente una bastardata al fine di guadagnare più soldi. Sì, assolutamente, è molto, molto, molto triste. Io veramente mi sembra di che quei giocatori che io ho chiamato più volte nelle puntate i tredicenni che giocano a FIFA la domenica alla PS3, cioè che queste persone siano ormai quelli che riescono a portare in causa, non a portare in causa, però capite quello che voglio dire, l'autore di uno dei videogiochi più belli sicuramente del recenti, a fargli cambiare il finale, a ottenere rimborsi, qualcosa di veramente vergognoso. Comunque, cambiamo argomento anche. Ma questa che hai contro FIFA? Che hai contro FIFA, scusa? No, no, non ho capito. No. È il calcio che è molto poco nerd, secondo me, quindi odio quelli che dicono sì, sono un videogiocatore, gioco a FIFA. Andiamo avanti, quindi, vi prego. Ok, andiamo avanti, perché queste news sono davvero bollenti stavolta, prendono davvero tanto tempo. Allora, Malloman, parliamo un po' di qualcosa di diverso. Sta uscendo Ubuntu 12.04, ne avevamo parlato male dell'ultima release qualche nerd secolo fa. Quindi dici un po' che cosa cambia. Allora, premesso che è uscito già il 26 aprile, è uscita una nuova versione di Ubuntu ed è la 12.04. Allora, premettiamo che sono stati introdotti veramente tanti miglioramenti. Allora, prima cosa di tutto, vabbè, è una LTS, una Lantern Support, e quindi abbiamo un supporto di questa versione veramente molto esteso, però al posto dei canonici 18 mesi verrà supportata per 5. Inoltre abbiamo l'introduzione del nuovo kernel, quindi userà la versione 3.2, e piano piano vediamo che si stanno risolvendo tutti i problemi che riguardano il consumo energetico, quindi tutti noi che abbiamo ad esempio Ubuntu su un laptop sicuramente saremo felici di questa cosa, anche se la versione 3.2 non risolve definitivamente i problemi, comunque è già già qualcosa. Poi soprattutto i miglioramenti maggiori sono stati effettuati nell'usabilità, ovvero Unity è stato, nonostante soffra ancora di qualche problema di integrazione, abbiamo comunque un sacco di feature nuove per Unity. Poi abbiamo la Dash, che è stata migliorata l'organizzazione delle icone e permette di cercare con molta più efficienza i file, infatti si possono taggare e quindi funziona un pochino come Spotlight di macOS 10, che comunque basta cercare o una parola all'interno del file o il nome del file e viene trovato con una velocità veramente sorprendente. Poi abbiamo la nuova HUD e una nuova navigazione tra i menu, quindi quando si lavora con un'applicazione basta premere il tasto Alt per far apparire una casella nella quale si digita un'azione. Ad esempio, se noi siamo sul nostro browser e premiamo Alt e poi scheda, escono tutte le opzioni per quella scheda, tipo nuova scheda, chiudi scheda, eccetera, il che rende molto più veloce e funzionale in un certo senso l'utilizzo dei programmi. Purtroppo però questa feature non è disponibile ancora per tutti i software, ad esempio il LibreOffice non funziona. Abbiamo anche un miglioramento notevole degli shortcuts da tastiera e quindi abbiamo anche qui vediamo che le attività più comuni sono molto velocizzate. Poi abbiamo un nuovo sistema di controllo della privacy che permette di controllare in modo analitico cosa il sistema e le applicazioni devono registrare e cosa no. Quindi ad esempio è possibile cancellare la cronologia di alcune attività, disabilitare le registrazioni su disco di alcuni programmi, impedire al sistema di registrare anche qualsiasi azione dell'utente e così via. Poi inoltre Canonical pare che andrà ad adottare Wayland e quindi di mandare in pensione il server grafico X. E questo fa pensare un po' che probabilmente sorgeranno parecchi problemi di compatibilità, anche se è stato introdotto, ma pare che verrà implementata nella versione 12.10, quindi per il momento non abbiamo ancora l'X Window System. Poi vabbè, abbiamo un ricambio dei software, quindi Rhythm Box sostituisce Banshee, abbiamo l'eliminazione del progetto Mono, un sacco di software sono stati aggiornati e ultimamente c'è questa cosa di velocizzare tantissimo i tempi di avvio. Ora Ubuntu di base è molto veloce con l'avvio, però adesso si avvia veramente in un tempo breve, veramente pure inferiore agli 8 secondi. E niente, poi sostanzialmente sono state anche preparate, è stato preparato il sistema a ricevere gli upgrade che verranno introdotti nella prossima versione, quindi tra 6 mesi, con Ubuntu 12.10. Ora questi sono i cambiamenti, diciamo, salienti, poi chiaramente ce ne sono stati tantissimi. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, io direi di lasciare la parola al più competente, forse, anche se appunto mi vuole dirlo. Guardalo, che sei proprio vergognoso. No, guarda, non dico molte cose su questo Ubuntu, dico solo che la prima cosa che hai detto, ossia il miglioramento sul risparmio energetico, è veramente un qualcosa di attesissimo. Io l'ultima volta che ho provato Ubuntu sul mio portatile è stato inutile sostanzialmente, perché dopo che compri un portatile con una certa batteria, una certa durata di batteria, e te lo vedi durare la metà, ti passa veramente la voglia di tenerci Linux di sopra. Ora io non ho avuto occasione di mettere mano sulla beta o su una candidate, insomma non ho avuto modo di provare 12.04, però se è vero che i problemi alla batteria sono stati presi in considerazione e parzialmente risolti, allora è una gran release, è una release da beccare al volo. Per il resto, onestamente, tutta quella roba non mi entusiasma. Mi fa piacere che abbiano fatto dei passi indietro su Unity e su tutta quella roba, cioè era importante metterci mano, secondo me. Non mi esprimo su altro, no. Il resto sono changelog interessanti, ma molto subdoli, a mio parere. Sì, sì, infatti è stato fatto più che altro molto lavoro dietro le quinte per preparare la 12.10. Comunque ti posso dire, no, io avendo Ubuntu sul portatile, che vabbè, ho comprato una batteria maggiorata di recente, però ti posso dire che giocando un po' sulle impostazioni, la durata, l'autonomia mi arriva anche alle 8-9 ore. Insomma. Ma sei sicuro che questa autonomia è ai livelli di Windows, insomma, equipaggiato con tutti i driver e tutto il resto? Io ho avuto l'impressione che non reggesse il paragone ancora. Guarda, dipende, perché se tu installi il kernel 3.3.5 ci va. Forse col 3.2 ancora non tanto. Però mettendo le ultime versioni del kernel è veramente pazzesca, con miglioramenti veramente grossi. Molto bello, molto bello. Allora ci dovrò mettere mano e vi farò sapere nella prossima puntata cosa ne penso con le mani sul prodotto, insomma. Vai, Luca. Con le mani sulla merda, pronto a spalare anche su questo prodotto, visto che non ho mai sentito parlare a Dario di qualcosa di buono, tranne che di Longest Journey e di tutti i suoi surrogati, diciamo. Devo dirlo, questa puntata siete cattivi. Voi non è colpa nostra, Journey, se tu non vi parlo più. Vai. Non è colpa nostra se tu nella tua rubrica attacchi a zero anche gli amici. Stiamo andando off topic, vai forza. Vabbè, Malloman, parlaci di un altro argomento caro a questo podcast, perché più volte noi abbiamo, oltre ad aver parlato già aver fatto già un confronto tra i browser più in uso nel mondo dei nerd, abbiamo fatto notare il nostro dispiacere nel vedere un Firefox in discesa rispetto invece a un Chrome, del quale adesso almeno io personalmente sono diventato utente, penso anche Garriden. Mamma mia, siamo dei traditori. Vabbè, però insomma i miglioramenti si prendono dove stanno, insomma, a prescindere dal nome che li porta. Sì, come le puttane praticamente. Ma perché, Murta, che tu sei ancora user Firefox? Sì. Ci guarda, vabbè, con questo fare. Bah. Beh, Malloman, difendi un po' il punto di vista di Murtagh allora. Sì, ma infatti no, abbiamo detto varie volte nelle scorse puntate quanto questi aggiornamenti che poi vengono fatti con una velocità impressionante siano soprattutto poco sostanziali. Cioè sono quasi deludenti perché non introducono praticamente nulla di nuovo, nulla di cui se un utente normale si può accorgere. Comunque pare finalmente quindi che questa versione 13 porterà un cambio, si dice, radicale. Allora, uscirà il 5 giugno e avremo innanzitutto un home page completamente ridisegnata, la quale oltre vabbè, alla classica barra di ricerca di Google ci permetterà facile accesso a segnalibri, cronologie, impostazioni, add-ons, download e preferenze di sync. Quindi sostanzialmente è più facile raggiungere i siti visitati di recente, è possibile personalizzare o aggiungere e rimuovere le miniature, e quindi tutto per velocizzare e rendere più user friendly, se vogliamo, l'esperienza di navigazione. Inoltre sono state anche migliorate le tecnologie interne, va, chiamiamole così, in modo che rende la navigazione molto più performante, più veloce, consumi di memoria ridotti, eccetera, perché sappiamo che comunque Firefox, soprattutto su Windows, a livello di memoria e di risorse è veramente tragico come cosa. Poi inoltre è stato aggiunto il supporto all'SPDI, che è il protocollo progettato come il successore di HTTP. Quindi verranno ridotti sostanzialmente i tempi di avviazione della pagina web, le connessioni saranno tutte criptate con SSL, quindi sarà molto più sicura la navigazione. E inoltre, altre novità verranno introdotte con Firefox 14, quindi 13 e 14 saranno, non so, non vorrei dire una cattiveria, ma la versione 5, va? La vera versione 5 di Firefox. Guarda, una sola cosa, hai detto che la gestione della memoria di Firefox fa schifo, ed è parzialmente vero, però ci terrei a dire che quella di Google Chrome non è tanto migliore, ok? Io adesso parlo da utente Chrome, perché sai, io sono una bandieruola, vado a puttane, come dice Murtagh. Quindi sono andato su Chrome e ho trovato tante cose belle, per cui credo ci rimarrò, anche se Firefox ha tanti bei miglioramenti in questa release. Però la gestione della memoria fa cacare anche lì, almeno per me che apro 8000 schede e onestamente le uso anche 8000 schede. Forse Luca vuole aggiungere qualcosa, lui che è un altro tipo da 8000 schede. Sì, no, infatti io diciamo che con Chrome mi trovo, pur utilizzando un multitasking selvaggio, comunque abbastanza bene nella mia navigazione. Da quello che ho potuto vedere, devo dire anche con molta superficialità, non sono andato a indagare molto riguardo Firefox 13, è che la home mi sembra copiata da Chrome e la finestra nuova scheda mi sembra copiata da Opera. Cioè non so se avete avuto... No, questo è anche lui. Questo è vero, sinceramente. Cioè è lo stesso. E appunto, cioè, è una cosa abbastanza triste. Comunque chiudiamo con queste nerd news che si sono protratte fin troppo. Prima di passare al Nerd Talk vi lasciamo rilassare gli animi con gli Emerald Park. Questa è For Tomorrow e ci sentiamo tra un po'. Bene, questi erano gli Emerald Park con For Tomorrow. E niente, cominciamo con il nostro Nerd Talk. Sigla. Nerd Talk. Oh, bene, bene, bene. Dopo questo momento di nerd news molto, molto acceso, molto infuocato, tocchiamo un altro argomento piccantissimo, direi, per i membri dello staff di Nerdcast, che è la religione. Allora, vorrei che Murtag dicesse qualche parola prima di iniziare a parlare seriamente di questo. No, ma perché io, fammi capire. No, visto che penso che portiamo tutti memoria di quelle... di quelle partite ad Unreal in cui tu perdi e poi insomma assieme a te perde tutto l'arco dei cieli. Comunque andiamo avanti. Allora, scusate, posso dire una cosa molto veloce? Allora, io rispetto tutte le religioni, quindi per favore, se siete rimasti voi cristiani, buddisti, islamici che ci ascoltate, per favore, davvero, io non sono contro le religioni, almeno in questo podcast. Poi all'esterno diciamo che probabilmente sì, però in questo podcast non sono contro le religioni. Quindi io mi dissocio da qualsiasi riferimento blasfemo che possono fare i miei colleghi. Io rispetto tutti e viva i dei e vai. E viva i paraculi anche. Comunque andiamo e cominciamo con il nostro Nerd Talk. Allora, intanto, questo argomento che può sembrare molto poco nerd, in realtà noi sapremo come ricordarvi qualcosa che, in effetti, quando leggevo vari articoli al riguardo, mi rendevo conto di non aver mai riflettuto abbastanza sul ruolo che la religione ha nei videogiochi che io ho da sempre giocato e che sul quale non avevo mai riflettuto, in effetti. Cioè, basta pensare, non lo so, a giochi come Zelda, giochi in cui sostanzialmente o i God Games, insomma, tutti giochi che in qualche modo hanno dei timidi o a volte non molto più espliciti riferimenti alla religione, che insomma gioca un suo ruolo. Garriden, tu che cosa ne pensi del ruolo della religione nella storia dei videogiochi e di come questa si è evoluta, diciamo, secondo te, fino ad oggi? Va bene, va bene. Allora, guarda, non faccio troppi cenni storici, vi porto subito un gioco alla mano che ha tanta roba dentro. Forse ricorderete, no, che ricorderete, ne abbiamo anche parlato, dovete conoscere Black and White, no? Di Peter Molyneux, come si chiama lui? Molyneux. Ok, che è senza dubbio il gioco più, il più grande God Game dopo Populous e simili, no? Mm-hmm. Allora, che cosa c'era di storto in Black and White secondo me? Prima cosa, qualche volta Molyneux in qualche intervista ha detto che il gioco era orientato ai credenti, ok? Cioè, nel senso che era mirato ad aumentare la fede, letteralmente, a far vedere che era possibile, ok? Che era mirato a tante cose, ok? Una cosa che già non mi è piaciuta tantissimo, ma non fa niente. La cosa che non mi è piaciuta è che, diciamo, che questo Nerd Talk sarà anche molto basato sulla morale oltre che la religione, no? In Black and White tu dovevi costruirti la tua morale, dovevi vedere se eri buono o cattivo, ma il buono era sempre premiato più del cattivo. Cioè, se tu eri buono ti beccavi il miracolo che potevi utilizzare quando volevi, se eri cattivo no, cazzi, niente. Cioè, questa cosa è negativa, cioè porta le persone a vedere il buono solo in alcune cose, senza vedere tutte quante le possibili sfaccettature. Io non dico, è vero che fare il cattivo è più facile alcune volte, ma si poteva benissimo calibrare questa cosa. Invece non è stato fatto. In molti giochi ho questa brutta impressione che il buono di alcune religioni occidentali viene visto come buono assoluto. Questa cosa secondo me è negativa. Aiutatemi. assolutamente. Forse ci manca la cara barra del karma, no? Di Fallout, se vogliamo anche. Cioè, ma a mio parere anche in Fallout c'era qualcosa di storto nelle quest. Anche in Fallout, assolutamente. Però ci sono altri giochi, per esempio anche in The Elder Scroll, in cui si sente comunque. Murta, che forse stava cercando di dire qualcosa. No, vabbè, se vuoi finisci il tuo pensiero. No, vai. No, allora io vi direi questo, prima cosa. Il problema di Black and White è Molyneux, nel senso che Molyneux è pazzo. Cioè, tu dai troppo a corda ad un uomo che è impazzito. Devi capire questo. E secondo, sono d'accordissimo sul fatto che è sbagliato che gli dei cattivi vengano puniti. Cioè, ci sta che vengano tipo puniti dal popolo, tra virgolette, però non dal gioco, non ha senso. Se tu fai un god game devi rispettare entrambe le parti, non ha davvero senso. E poi una riflessione che stavo facendo io tra me e me è che qua c'è una minima nota personale, per favore non scherzate. Io almeno quando gioco ad un god game o gioco a qualche titolo che mi mette diciamo in condizione di credere ad un dio fittizio del gioco, tendo ad essere molto più credente in quel dio del gioco che nella realtà. Nel senso, tutto. Questo sicuramente ha un senso nel momento in cui so che completo la missione per quel dio e lui mi darà tipo armi, mi farà salire di livello. Magari forse questo nella realtà non esiste, però forse però diciamo che non esiste. Però siccome nel gioco esiste, io sono portato di più a credere, tra virgolette, a essere fedele a quel dio. Ed è una cosa, può essere divertente se ci pensi all'inizio, però ripensandoci è una cosa davvero paurosa, nel senso, cioè noi siamo portati a credere in coloro che poi ci fanno salire di livello, detto alla RPG. E parlando di RPG, io noto, non so voi, che la presenza degli dei o dei semidei è molto più presente, cioè la presenza è molto più presente, magari non è proprio italiano, però diciamo si sente di più, si percepisce di più nei GDR per qualche motivo. Beh, caspita, il motivo è che la maggior parte dei GDR è fantasy, e in un mondo fantasy si presuppone che ci siano degli dei, quindi diciamo che ci sta. Però pensando anche ad altri giochi che non siano RPG in questo senso, io in effetti fatico a sentire la presenza di un dio comunque della religione, tranne alcuni giochi in particolare, come vabbè magari God of War, Dante's Inferno. Non ci sono dei veri e propri giochi non RPG che mi facciano percepire la presenza di un dio per qualche motivo. E questa cosa, devo dire, se non si tratta di un god game va benissimo, nel senso che dipende come viene costruito il gioco. Però se il gioco è focalizzato sul personaggio principale o sui personaggi della storia, e a come il personaggio principale con le sue forze riesce a sconfiggere il boss finale senza l'ausilio di un dio onnipotente, eccetera, mi dà un senso comunque di compiutezza maggiore. Almeno questo è quello che penso io. E sto parlando dei giochi non RPG, chiaramente, perché poi negli RPG c'è questa cosa che il più delle volte gli dei ti regalano armature, spade, quindi chiaramente tu sei portato, no, a compiere, tra virgolette, le missioni per loro. E poi vi lancio un'ultimissima provocazione molto veloce, ma dico, ma i credenti nella vita reale, ma li giocano i giochi di violenza pura? Cioè, io non credo che esistano delle religioni, tranne qualcuna, non lo so, che ti dicono beh, adesso vai fuori e spara, ammazza, ruba macchine. Io voglio sapere, no, ma un credente vero e proprio, ma GTA lo gioca rispettando i semafori, non lo so, prendendo al massimo a pugni i personaggi? Cioè, secondo me, come la vedo io, difficoltà god praticamente. Sì, esatto. Comunque sì. C'era Marloman che voleva aggiungere qualcosa magari prima di passare a quest'altro Sì, penso. Sì, è vero, è vero. No, ma infatti volevo dire io, no, che spesso la religione incide molto sulle trame, cioè fa nascere proprio le trame. E il concetto proprio di divinità, dell'item della divinità, di questi god game, rende, diciamo, quasi fa nascere la storia, no? A me viene in mente ad esempio Zelda. Cioè, le tre divinità l'hanno creato il mondo e poi hanno lasciato la Triforza. Ma se la Triforza non fosse stata un oggetto divino, nessuno quindi che ha... da dei poteri soprannaturali, questo, quello e quell'altro, non ci sarebbe stata la parte la voglia da parte dei personaggi del gioco di andare per forza a conquistarla, e quindi la nascita del grande antagonista, eccetera. Ma perché questo in un certo senso è quasi ovvio, no? Ma, cioè, una cosa è un oggetto divino, un'altra è una spadina de merda, parliamoci chiaro, no? E quindi appunto, però, questa cosa che nei GDR ad esempio cioè, sembrano quasi le divinità come dei personaggi che ti consegnano una quest e tu appunto ottieni la ricompensa. Ma è strana questa cosa, perché il concetto di divinità non dovrebbe essere, di religione non dovrebbe essere questo, che io faccio qualcosa e tu mi dai la ricompensa sostanzialmente. Ma adesso, se volevi proseguire. No, io ho un'altra idea. Penso che voi siete dei grandi miscredenti anche all'interno dei videogiochi. Invece io almeno cambio faccia. Cioè, allora, nei giochi di ruolo io sono solito essere un grande credente. Cioè, tutti i miei personaggi, quando me lo consente il gioco, qui tiro fuori Dungeons and Dragons, perché da questo punto di vista è inarrivabile, diciamo, come libertà di creazione del proprio avatar. Allora io sono portato a, siccome mi piace molto giocare di ruolo, e giocare di ruolo è anche molto difficile, come diceva prima Garriden, la religione è una cosa che è bello ruolare, insomma, che è bello dare, come anche per colorare di più il background del proprio personaggio, per dare un senso, non per ricevere qualcosa direttamente, ma per avere anche qualcosa da fare in termini anche inutili, in dei momenti di buco. Per esempio, che ne so, porto Dungeons and Dragons, arrivati in un momento in cui la missione si fa difficile in modo particolare, ci sarebbe da prendere decisioni, il giocatore di ruolo che ruola con un personaggio estremamente credente si mette a pregare, ma a prescindere dal fatto che questo non gli porterà niente nel gioco, però è... contribuisce a far sì che la trama si faccia più affascinante, secondo me. Cioè, a livello di motivazione del giocatore, la religione è ha un suo ruolo importante. Poi è anche bello per avere degli antagonismi rispetto ad altri giocatori che invece non seguono la tua religione, oppure ne hanno una che è contro, insomma, seguono degli dei diversi. Poi vabbè, qui c'è da fare tutto quel discorso su gli allineamenti caotico neutrale, leale, fottutamente neutrale, insomma, tutte queste cose. La religione, secondo me, serve a dare un senso anche a queste cose. C'era Garriden che forse voleva aggiungere qualcosa. Sì, no, come dicevo, prima di cestinare l'argomento degli dèi e passare all'argomento morale, che a mio avviso è più vicino al mondo dei gamer, cioè, sapete, la linetta, l'angioletto, il diavoletto da un lato, no? Prima di fare questo, volevo tirare fuori una cosa nerd, ma non gamer. Cioè, tutti quanti voi magari avrete aperto un manga qualche volta, insomma, il manga è sinonimo di mondo orientale ormai. In generale, nei manga l'argomento religione è toccato quasi sempre ed è piuttosto delicato, nel senso che una buona parte dei manga sono atei, ok? Almeno questo è stato il mio avviso. Sono atei, ma sono tutti quanti molto sognatori. Cioè, in generale, il credente all'interno di questa roba è visto come, che ne so, come un fesso, ok? Come una persona. Molto spesso i personaggi più influenti lo smerdano proprio perché credente. E invece questa cosa. Però allo stesso tempo, nel background si nota che lui è una persona molto. Non saprei, forte, ok? Che il credere è un qualcosa di assolutamente positivo. Nonostante tutto, c'è sempre quel, non lo so, chiamatelo sapore ateo in tutta questa roba. E io l'ho notato anche in molti giochi. Parliamoci chiaro, piglia un gioco come Fallout, che è molto lontano dal concetto del divino. Dopo tutto ciò che è successo a Fallout, è tutto molto ateo, ok? E non è l'unico, ce ne sono tanti così che necessariamente sono atei. Però andando a scavare si scopre che c'è sempre una parentesi che vede del positivo nella religione. È un qualcosa di necessario forse, perché c'è sempre un credente nel team che va a sviluppare la storia, il gioco. O mi sbaglio? No, ma infatti c'è questa cosa, anche se non, cioè, non è religione vera e propria, ha comunque una certa, cioè, non so come dire, una componente religiosa, cioè, vale a dire, il credo del protagonista, nonostante non sia tipo un credo religioso, viene, è come se lo fosse, va, tipo in Assassin's Creed, nonostante, cioè, non... Che merda Assassin's Creed. Ho capito, ma la... vabbè, l'anticristo non c'è della una... religione, cioè. Non c'è una puntata dove non passiamo a buttare merda su questo gioco, è incredibile. Vai. Comunque dicevano, nonostante ci sia comunque i protagonisti non si dichiarano in nessuna maniera cattolici o quello che volete voi, comunque un credo quasi religioso c'è. Quindi se non c'è un esplicito riferimento a una qualsiasi religione, c'è comunque una componente riconducibile alla religione. Sì. Questo, diciamo di sì. Diciamo che nei videogiochi viene spesso molto usato, più che la religione, il simbolismo religioso. Ripeto, questo si riallaccia in parte a quello che ho detto prima, cioè serve a colorare in qualche modo la trama, perché la religione con i suoi riti, i suoi simboli ha degli assi nella manica dal mio punto di vista. C'era Murtag. Allora, per rispondere a Garriden, allora il fatto dei manga, che sono tutti atei nel manga, sì, cioè ti do ragione, nel senso che manga ne leggo tantissimi, ci sono casi molto particolari, mi viene in mente per esempio i Cavalieri dello Zodiaco, in cui la religione ha un ruolo, diciamo, fondamentale, quindi ci sta, però nella maggior parte dei casi in effetti sì, sono tra virgolette atei, ma quello, diciamo che quello è un discorso, ti sei inoltrato in un discorso molto ampio, ci vorrebbe un po' di discussione in più. Sì, hai ragione. Tireremo, diciamo, tutto al più in uno speciale si può dire qualcosa. Diciamo che il mondo orientale c'ha tante storie dietro, specie nel punto di vista religioso, direi, no? Sì. Esatto, penso sì, che sia molto, molto importante il fatto che molti di questi vengano dall'Oriente, comunque le concezioni sono molto diverse dalle nostre. Sì, no? Sì, no, ma in effetti poi in Giappone è una religione proprio sentitissima, diciamo che c'è lo shintoismo, però poi alla fine non sono neanche troppo credenti i giapponesi, quindi volendo ci sta. Comunque ripeto, è un discorso molto lungo. Per ritornare sui binari, allora, una cosa veloce su Assassin's Creed, che l'avete un attimo denigrato, voglio dire una cosa velocissima. Assassin's Creed 2 è l'unico gioco in cui si può pestare il Papa e nessuno ha mai detto niente. Adesso forse... ti sbagli, c'è quel famoso gioco che è uscito con l'Unità d'Italia dove c'è una glitch che ti fa sparare il Papa, anche quella è degna. Cioè, tu mi stai parlando di quella roba dei rivoluzionari che aveva... È uno spettacolo di gioco. Aspetta, ma l'ha fatto l'autore di The Longest Journey? Andate tutti a fanculo. Comunque, non ha detto niente nessuno. Questa cosa mi fa incazzare, perché si fanno le polemiche per i finali, per i DLC, si fanno le polemiche perché si spara nei giochi, perché ci sono le scene di sesso, no? Sempre parlando di Mass Effect. Poi non si fanno le polemiche perché si può pestare il Papa, però... E ma Assassin's Creed è il gioco sacro. Appunto, vabbè. Ritorniamo un attimo su quella questione interessante invece del contrappasso, cioè credente nella realtà distruttore nei videogiochi. Quanto questa cosa si può conciliare? Cioè noi conosciamo qualcuno che potrebbe vivere questo contrappasso in qualche modo, no? Secondo voi, cioè, io non ho esattamente idea di come ci si approccia. Cioè, io divento un grande credente, loro diventano dei grandi satanisti. Vabbè, ma no, prendono ogni gioco come una crociata, no? Dio lo vuole e ammazzano tutti. Ecco, abbiamo perso tutti gli ascoltatori. Ok. Questa poi la tagliamo. No, ci, la tagliamo. No, ci stavamo mantenendo su un piano. Cioè, eravamo quasi democristiani, voglio dire. Vabbè, no, eravamo estremamente democristiani. Comunque non la tagliamo questa. No, assolutamente. Vai. Niente, posso continuare? Su questa cosa... allora, devo dire la verità, cioè personalmente io non conosco, in generale non conosco molti credenti, però quei pochi credenti che conosco, difficilmente, a dire la verità, giocano quei giochi un po' troppo spinti dove è chiaro che devi uscire e ammazzare tutti. Poi secondo me, sì, per contrappasso, e questa è una mia teoria, non è detto che sia vera, secondo me il credente, solo nella sua stanzetta che sta giocando GTA, che non lo vede nessuno, che non c'è il prete che lo osserva, non c'è Dio che lo osserva, secondo me prende e ammazza tutti. Io ho questa impressione, non so. Sì, è perché. Proprio quello che tromba la prostituta e poi la spara, dai, diciamo. Sì. Bastardi. Ho questa cosa io me l'immagino il credente che va e spazza e ammazza tutti. Non lo so perché. Secondo me è davvero perché c'è una sorta di repressione, no? Una all'interno. Sorta di masturbazione intellettuale. Senti, ma questo podcast è seguibile solo da italiani, no? Adesso sottraiamo alla popolazione italiana i cattolici. Tutti. E abbiamo ipotetici ascoltatori di questo podcast. Sottrai i giocatori di Assassin's Creed, nessuno ascolterà questo podcast. Quelli di Skyrim, quelli che usano Macintosh. Porca troia, siamo proprio rovinati. No, sul serio, cattolici, vi vogliamo bene, ci mancherebbe. Stiamo parlando tra di noi. Malloman voleva aggiungere qualcosa. Io volevo rispondere a Murtag su questa cosa del contrappasso. Bene, io tempo fa discutevo, no, con un ragazzo in facoltà. Diceva proprio questa cosa: siccome io nella vita reale sono un credente, faccio il bravo cattolico e sono una brava persona, allora nella vita, cioè nei videogiochi, voglio provare la cosa di essere tutto l'opposto di come sono nella vita reale. Cioè, in un certo senso, sono già buono nella vita reale, non ha senso esserlo nei videogiochi, e voglio anche in un certo senso testare le emozioni che si provano a fare tutto il contrario. Ma hai sbagliato, dovevi fare il contrario, porca miseria. Però, cioè, voglio dire, questo riflette quello che ho detto finora, nel senso, secondo me c'è una componente psicologica non indifferente. Prendi e secondo me, se sei un credente, ti liberi, ti sfoghi in qualche modo. Non so, cioè, poi chiaramente se ci sono ascoltatori credenti che hanno una loro opinione, ce la facciano sapere. Questo lo sto dicendo seriamente, nel senso, è interessante capire anche come si modifica e se si modifica la psicologia a seconda della religione in cui si crede, no? Che poi non è detto, perché noi stiamo sottintendendo che sia il cristianesimo, però in generale parliamo anche delle altre religioni, no? Chi lo sa, voglio dire, dipende. Secondo me è una buona cosa da sapere, da conoscere. Quindi chiaramente, ascoltatori, nerdocast@gmail.com. No, ma comunque non è tanto... Sì, vabbè, infatti come dici tu. Però comunque la cosa che mi ha colpito, no, da quella discussione, è che sostanzialmente non è come un GDR che dici vabbè, adesso il mio interpreto questo ruolo con il mio personaggio. No, è quasi uno sfogo, perché nella vita non lo puoi fare. Cioè è strana come cosa comunque, Vabbè, forse Dario voleva aggiungere una cosa. Sì, vabbè, voglio bruciare una tappa più che altro. Come vi ho detto, avrei preferito spostare la discussione verso la morale. E a proposito di morale, mi viene in mente tutte queste scelte. Mi sto focalizzando sempre su giochi tipo Fallout, Skyrim, ma non tanto Skyrim. Insomma, giochi che vi offrono più strade, una cattiva e una buona, piuttosto ben segnate. E allora mi viene da dire... quanto i giochi hanno un effetto didattico, ok, sulle persone. Cioè, giocando e trovandomi davanti quelle scelte che nella mia vita, insomma nella tua vita, non ti trovi nella scelta di uccidere un uomo tutti i giorni, ok? Allora, come influiscono su una persona? Di sicuro influiscono. Cioè, tutte quante quelle scelte che facciamo su Fallout ci lasciano pensare, ok? Sto pieno Fallout, che è proprio quello classico, ce ne sono tanti. Ci fanno pensare, ci fanno dire era la cosa giusta, non era la cosa giusta. E alcune volte, la cosa che veramente mi colpisce, che alcune volte volevamo fare una scelta e non ci riusciamo effettivamente nel gioco, perché le cose prendono una piega diversa. E questa cosa mi lascia pensare, poteva essere così nella realtà, e magari chissà, un giorno io mi regolerò di conseguenza. È così? Aiutami tu, Luca. No, è incredibile, perché guarda, Fallout è stato uno dei giochi da me più sofferti da questo punto di vista, nel senso che prendere una scelta che poi io ho preso pensando che potesse essere interessante, perché alla fine, no, penso che se uno ha un approccio, se uno è leggermente più maturo di quello che dovrebbe, forse anche, quando si trova a dover prendere le scelte nel gioco, allora poi ci riflette, come hai detto tu, e gli vengono fuori delle cose interessanti, tipo su Fallout. Io per esempio ho deciso di... Vabbè, lo ammetto, ho deciso di aiutare a New Vegas la legione, ok? Sì. Sono stato un bastardo, però... Allora, questo mi ha fatto pensare. Io all'inizio pensavo che in effetti non ci fossero veramente cose che avrebbero giovato all'umanità in modo particolare. E siccome il tipo aveva studiato filosofia, ho deciso di seguirlo. Poi alla fine ho visto che è finita a merda e ci sono rimasto male. Ma mi devi credere? Cioè, davvero, quando mi hanno dato dello stronzo nel finale, visto che c'è la voce narrante che parla della tua storia, mi sono sentito un bastardo dentro, no? Cioè, mi fa male. Anche in Mass Effect, per esempio, quando c'era... Alla fine io non ho avuto neanche una cicatrice in faccia in Mass Effect 2, cioè ammetto di essere stato leale, buono fino alla fine. Cioè, dipende. Io davvero non riesco ad essere sempre troppo diverso da come mi comporterei effettivamente nella realtà, se non ovviamente col fatto che ammazzi gente con molta facilità, insomma, con cose di questo tipo. E penso che se uno è abbastanza maturo, allora i giochi sì, hanno anche un ruolo didattico molto interessante e molto innovativo, ma soltanto se uno è predisposto personalmente, altrimenti non devono essere creati appositamente. Cioè Molino è un pazzo, ok? Non può fare catechismo attraverso i suoi giochi. Sono molto più d'accordo con Ken Levin, creative director e cofondatore dell'Irrational Games, che invece ha una visione molto più tranquilla da questo punto di vista. Dice soltanto, cito lui stesso, lui dice: io non mi interessa che i miei videogiochi abbiano la esplorazione di se stessi heideggeriana, ma mi interessa soltanto raccontare una bella storia, e francamente non so neanche se vi piacerà. Cioè, mi interessa soltanto distruggere mostri e divertirmi con altre cose di questo tipo. Non so, sono due estremi Molyneux e Levin da questo punto di vista. Io penso che neanche un intermezzo, perché sarebbe ancora troppo estremista l'intermezzo. Però insomma, didattico, ma come te lo sai prendere tu, non perché i produttori devono preoccuparsene, insomma. Comunque, riflettevo su una cosa proprio adesso. Vi ricordate, avrete giocato SimCity, no? C'è la God Mode a SimCity. Cioè una modalità in cui tu puoi prendere una città, puoi causare le peggio cose, tipo fulmini, tempeste, eruzioni, puoi distruggere tutti. Pensavo, cioè, sono cose tragiche, molto tragiche tutte queste cose, no? Però il fatto di poterle fare, anzi il fatto che siano divertenti, no? È molto emblematico. Cioè, pensavo, è bello, qua, cioè questo non puoi dire di no, è bello quando tu sei il dio e puoi fare quello che vuoi con gli omini che sono là sotto, no? E ti dà una sorta di sensazione, di onnipotenza, che forse, cioè, forse questo è il vero modo di giocare, di utilizzare gli dei all'interno del gioco. E neanche come le intendevamo le new, perché secondo me è sbagliato, come dicevamo prima. Nel momento in cui tu sei un dio e solo tu puoi decidere cosa sia giusto o cosa sia sbagliato, e solo tu ti puoi dare delle punizioni, no? E non è il gioco a darti delle punizioni, perché se ci pensiamo, su Black and White, se tu fai il cattivo è il gioco che ti punisce, in altre parole, no? E quindi è come se il gioco fosse il dio del gioco, quindi Godception, se mi permettete un attimo. e quindi dico, il vero God Game, quando fare il dio diventa veramente interessante, è quando il dio è il dio e basta, non c'è il gioco che dice no, ma questo non lo puoi fare, quest'altro non lo puoi fare. Sei tu che prendi e distruggi. E che poi ho preso SimCity, che è un caso parecchio particolare, non mi pare che ci siano altri giochi che te lo possano fare. Però in effetti, no, facendo questi discorsi, almeno io mi sto rendendo conto che la morale a un certo punto scade, cioè i canoni della morale costruiti dai filosofi nel corso del tempo scadono tutti davanti al videogaming. Questa è una cosa stupenda, secondo me. Facciamo un po' un riepilogo di tutto quanto ciò che abbiamo detto. Abbiamo detto che ci sono questi dannati giochi, questi dannati God Game, e abbiamo visto come Black and White sia un gioco catechista, ok? Abbiamo visto che c'è la possibilità di scegliere buono o cattivo, e che sfortunatamente il buono è sempre premiato e il cattivo non sempre. Abbiamo visto che c'è un qualcosa di didattico nei videogiochi. A questo punto mi viene da chiedere se effettivamente tutte queste cose che abbiamo detto ci sono realmente nei giochi e interessano il creatore oppure no. Questa è una domanda che onestamente non credo siamo in grado di rispondere adesso. Ce la teniamo per dopo, che dici, Lu? Sì, assolutamente. Credo che questa... Alla fine, quando si parla di reggiseni, stavo per dire. vabbè, dai, youporn.com risolvi. Quando si parla di religione, alla fine si tocca una patata bollente per rimanere in tema, insomma. È difficile dare delle conclusioni, è difficile in generale concludere un discorso di questo tipo. Comunque è interessante vedere come anche nel nostro mondo dei videogiochi, dei nerd, questo abbia un ruolo anche così interessante. Ragazzi, che dire, questa puntata veramente mi sta portando abbastanza finito. Com'è lavorare? Com'è? Affanculo, no? Vabbè, allora, che facciamo? Ci rilassiamo un altro pochino, diciamo. Vi passiamo il nostro secondo pezzo prima di riattaccare con qualcosa di senz'altro più piacevole del Nerdtalk appena terminato. Questi sono i Delano con Cool Walk e ci sentiamo tra poco. Ok, questa era Cool Walk dei Delano. Che dire, a titolo informativo, molto politically correct, vi ricordiamo anche in questa puntata che ogni canzone la prendiamo da jamendo.com. Niente, ci piace la musica Podsafe, continua a piacerci e continua ad accompagnarci. Partiamo con il rock and roll, sigla. Let's plug it in. It's gonna say, hey, I see you've plugged in a new device. And it's gonna load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build, whoa. Moving that right must, along. That must be why we're not shipping Windows 98 yet. Absolutely, absolutely. Ah, amerò questa sigla ogni Nerdcast sempre di più, incondizionatamente. E incondizionatamente da quante volte Garriden continuerà ad interrompermi all'inizio di ogni sacchetto di questa puntata. Comunque, cose che succedono dietro le quinte che voi non, forse non saprete mai. Partiamo, sì, sì, con scherzo. I nostri, partiamo con le nostre notizie divertenti. Garriden, visto che sei in vena di cose divertenti, perché non ci delizi un po'? Ah, guarda, guarda, finalmente hai passato la patata bollente. Va bene, va bene. Allora, queste patate. Basta, queste patate. Allora, non è molto rock... nerd come argomento. Tu dici. Va bene, allora, il mio rock and roll è veramente... è abbastanza lol, devo dire, non è molto rock ma è abbastanza lol, e riguarda una review sulla Canon 7D. Ora non so se voi siete nel campo delle fotocamere, io non lo sono, però Luca ha una Canon, se non erro, vero Rampage? Yes. Hai una Canon? Ecco, questa Canon 7D, insomma, è stato chiesto a Digital Rev, non so se l'avete mai visto, è un sito che fa delle review molto interessanti con un tipo cinegiappo-coreano che parla con un accento britannico secondo il suo canale YouTube. Ok, sostanzialmente prende e prova un pochino questa Canon 7D, la sottopone a quelli che sono i suoi stress test, perché gli è stato chiesto quanto effettivamente era durable questa fotocamera. Ok, questi stress test stanno davvero fuori di testa. Prima viene colpita con un camion su un treppiedi, come se fosse una cosa che succede tutti i giorni, insomma, che un camion colpisce la tua dannata fotocamera in mezzo alla strada. Dopodiché, sempre della serie roba da tutti i giorni, viene messa su una carrozzella e fatta ruzzolare da una rampa di scale vergognosamente lunga. E dopo cominciano i soliti test che si fanno sempre, quelli più divertenti, ossia che succede se la mettiamo nel freezer, che succede se la mettiamo nel fuoco. Anzi no, scusate, che succede che se ci spariamo con un fucile da soft air, altre cose che succedono tutti i giorni. E poi, non soddisfatto, ci va a dare fuoco su un'isola, non ho capito perché il posto è quello. E in fin dei conti questa fotocamera scatta, si vede che scatta ancora, si vede che l'LCD qualcosa la fa ancora vedere, e c'è anche un esempio di una foto fatta con questa fotocamera dopo il trattamento. Ora io non so quanto possa essere vero questa review, e in parte ci credo, devo dire, effettivamente la fotocamera è a mille pezzi, spero sia vera anche la storia della foto. Se è così, bella fotocamera Canon, non posso dire altro. Non mi piace la Canon di norma, ma sembra veramente ottima come durability. Date un'occhiata a questo cinegiappo coreano perché è davvero degno, guardatevi anche i suoi altri video se non lo conoscete già, ha un senso dell'umorismo veramente coreano. Scusami, una domanda veloce, non ti piace la Canon? Cosa ti piace? Guarda, a me personalmente come impugnatura e come tante altre cose mi piace più Nikon, anche se sono senza dubbio Canon ha delle fotocamere anche forse migliori, però mi piace di più, non ci posso fare niente, lo giuro. Guarda, è strettamente, dipende strettamente da quanto possibilità economiche hai, là, perché Canon su prezzi umani è generalmente di più alta qualità della Nikon, però basta che vai dagli 800 euro in su e la Nikon spacca il culo, sì, diciamo, sì. Abbastanza. Hai comunque ragione. Stiamo essendo poco rock and roll. Malloman? Allora, niente, il mio rock and roll riguarda una cosa che gira da vari giorni in rete, chiamato Handbook for New Employees della Valve. apparentemente nulla di strano, no? Perché comunque è un manuale, almeno apparentemente, per i nuovi impiegati che vengono assunti da Valve. Però andando a leggerlo ci rendiamo conto che se li rapportiamo ai nostri standard non c'è niente di nemmeno lontanamente paragonabile alla conduzione delle responsabilità di una software house come Valve. Tra l'altro, come Valve spiega in qualche pagina, con l'aiuto di immagini veramente stupende, tipo stile Portal 2, con molta ironia, ad esempio la metodologia del lavoro al suo interno, e anche secondo me in un certo senso fornisce una risposta perché i titoli Valve sono anche così buoni, va. Comunque non c'è tanto da descrivere, è solo da andare lì, leggerlo e fare veramente due risate con le immagini e quant'altro, anche con le frasette ironiche tipo a fine pagina che sono meravigliose. Per esempio? È tipo frasi alla Portal 2, dai. Ah. Ma ragazzi, secondo voi è vero quell'handbook? A me ha fatto sorgere veramente dei dubbi. Secondo me sì. Secondo me guarda, anche. Guarda che Gabe Newell è pazzo. Gabe Newell, cioè. Allora, Molyneux è pazzo perché è malato, Gabe Newell è pazzo perché gli piace essere pazzo. Cioè ma è un ciccione di merda anche lui. Ecco qua, vai. Sì, vabbè, un ciccione di merda. A parte che, nota a margine, vorrei un attimo chiuderla qua sta cosa. Hanno detto che alle 3 Valve non presenterà niente. E adesso ditemi Half-Life. Allora, io avrò, se vivrò fino a 40 anni, avrò 40 anni quando uscirà Half-Life 3 probabilmente, quindi il nuovo Duke Nukem Forever. Come cacciato le parole di bocca, praticamente stavo per dire il nuovo Duke Nukem Forever. Perché così è praticamente. Va bene, vado io, Rampage, sì, va bene? Sì, vai pure. Allora, qua siamo sempre in tema di software house, questa un po' più conosciuta, Microsoft ha realizzato il controller che riconosce la persona che lo impugna dalle mani. Adesso, ragazzi, no? È proprio l'utilità di tutto questo. Allora, prendo il controller, mi riconosce la prima volta, registra, che ne so, credo registrerà... non so cosa possa registrare, il modo in cui lo impugno. Dice, va bene, tu sei questo, ti ho riconosciuto. Adesso la prossima volta che impugnerai questo controller io ti riconoscerò come te. E quindi, fatto questo, cioè voglio dire, l'implementazione dei giochi, io ci ho anche pensato, non è poi così tanto interessante. Sarebbe simpatico, ma neanche troppo interessante, che magari ti caricasse i salvataggi, gli ultimi salvataggi del gioco a cui stai giocando, appena impugni il pad. Lui dice, ah, tu sei quello. Ah, ok, tu, l'ultimo salvataggio è stato questo, riprendiamo da qui. Queste idee mi suonano simpatiche, ma in generale che cosa serve davvero? L'utilità, proprio la genialità di Microsoft di questi tempi mi sta sorprendendo sempre di più, e soprattutto mi fa piacere di una decisione di Microsoft, non proprio di Microsoft, però dei game developers, cioè il fatto di abbandonare progressivamente Games for Windows Live, perché era una cosa un po', ecco, qua non c'entra niente con Rock and Roll, però è sempre meglio ricordarlo. Quindi non lo so, cioè un controller che ti riconosce dalle mani. Guarda, e quindi Murtag, che cosa secondo ci facciamo? Me ha delle cose geniali questa cosa. Pensa un po', potresti con una, non lo so, con un raggiro far impugnare il controller a tua madre e registrarla. E poi metti un programma che ti fa il log di chi impugna il tuo controller, e scopriresti tutte quante le volte che ti viene a pulire la PlayStation. È di un'utilità drammatica. No, vabbè. Io avevo però paura di quello che potesse dire Garriden, e assoluto la conferma. Io me ne vado. Io ti giuro, guarda, me ne vado da questo podcast. Non è che. Mamma, vieni, tocca quanto è morbido il mio joystick. Vieni. Ottimo. No, mamma, ecco, ma che roba. Buona, servirebbe. Ci potrebbero fare un filone di film porno sulle MILF. Non è male questa roba. Vabbè. Mi astengo. Dai, continuiamo. Allora, ragazzi, deve essere anche la tua ragazza. Andava bene lo stesso. Vabbè. Va bene. Ma voi allora, non ce l'avete una ragazza? Sì, ce l'abbiamo, ma non ci pulisce la PlayStation, insomma, non è che... Va bene, va bene. Vabbè, comunque andiamo avanti perché stiamo veramente scadendo sull'over 18. Allora, io chiudo in bellezza. Io purtroppo ho sempre bisogno di supporti visivi nelle mie cose, nella mia rubrica, in tutti i miei rock and roll sostanzialmente, anche questa volta. Però stavolta vi posso aiutare un pochino. Quella che vi porto è lo screenshot di una conversazione, penso su Chat Roulette. Sì, Chat Roulette sarà. Tra un bambino di 8 anni fighissimo, con il dentino che gli esce dalla bocca e tutti gli altri che non esistono sostanzialmente, i capelli tagliati che sembra che gli hanno messo una pentola sulla testa e gli hanno tagliato con la forbice a cerchio sostanzialmente i capelli, che usufruisce, diciamo, delle potenzialità di internet per attaccare il bottone con una ragazzina non troppo grande da quello che si vede dall'immagine, e chiederle di mostrargli le tette come sport preferito di tutti quelli che girano su Chat Roulette, sostanzialmente, perché non si fa altro. La conversazione è fantastica, almeno quella che si può vedere. Mi piacerebbe tanto sapere quanto è andata avanti prima che lei skippasse lui, vergognosamente. Comincia il ragazzino: ciao, ciao, quanti anni hai? 8, mi fai vedere le tette? Ma come 8? Devi avere almeno 16 anni per stare qui dentro. Me ne fotte un cazzo. Hai 8 anni e vuoi vedere le mie tette? Sì, cazzo. E poi non va avanti, purtroppo, però è veramente fantastico. I capelli a scodella. Ma è fantastico, cioè bisogna vedere la faccia di questo ragazzino per capire quanto va. Comunque, bellissimo. Tits or get the fuck out. Esatto, cioè, esatto. E secondo me questi sono gli stessi che vanno ad EA a dire che il finale di Mass Effect 3 è brutto. Ecco, è questo che mi spaventa. È questo che mi spaventa. Sono gli stessi che giocano a FIFA la domenica alla PS3. Comunque. Oh. Cioè, vorrei. Vabbè. Andiamo avanti. Vabbè. Ah, ci siamo fatti. Ma che c'entra FIFA? Madonna, ma la smetti di farti piacere il calcio? Cioè, siamo su un podcast per nerd seguito niente. Da videogiocatori e tu ti metti a parlare. Basta, per favore. Ecco, allora chiudiamo con il rock and roll, cari amici, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, cari nerd, cari spagnoli soprattutto. Vogliamo salutare gli spagnoli perché da pochi pochi minuti fa ci ha aggiunto l'ennesimo spagnolo come è diventato fan di Nerdcast. Ho detto: ah, abbiamo un nuovo fan, cazzo, mi sono casato, sono andato Luis Ramirez, ma vaffanculo, ho pensato. Vabbè, comunque no, vabbè, andiamo. Io non lo so dove stiamo aggiunto. Arrivando, cioè, una volta parlavamo di videogiochi, di cose, non lo so, vabbè, va. La tipa della volta scorsa non era male, comunque voi, io non la caccerei dai. Vuoi parlare di videogiochi? Parliamo di videogiochi. Partiamo con il Time to Play. Sigla. Ah, beh, la sigla di Monkey Island è sempre ideale per parlare di videogiochi, anche se sono troppo moderni. Allora, parliamo di una cosa di cui abbiamo già parlato stasera, Mass Effect 3. Murtag, impressioni serie stavolta, al di là di quanto i fan ci siano sul cazzo. Allora, guarda, ti preannuncio però che è un discorso un po' lunghetto, se volete andare un attimo prima voi, perché mi preparo... Cioè, vi lascio il discorso lungo alla fine. O se no ve lo spippo adesso e spippacelo adesso, vado a fare il caffè intanto, dai. Ok, allora Mass Effect 3. Dunque, io l'ho finito Mass Effect 3 e credo di essere stato l'unico, mi sa, tra di voi. Non so se qualcun altro l'ha finito. L'hai finito? Mm-hmm. Ok, allora ti chiedo velocemente, sta fine, come ti è sembrata? Senza spoiler, chiaramente. No, senza spoiler, io onestamente ho apprezzato il finale, cioè non ci ho visto niente di così tragico. È stato un finale strambo, ma onestamente non mi ha scandalizzato e non ho neanche capito tutta quanta quella storia che c'è stata online. Poi non so tu, a quanto ho capito anche tu più o meno sei della stessa opinione. Sì, esatto, cioè allora, prima cosa di tutto... io Mass Effect 3 l'ho finito soltanto per vedere questa fine, perché mi dicevano: no, la fine, che brutto. Ho detto: va bene, dai, vediamo questa fine. Finito il gioco, ho detto, beh, e quindi dove stanno le polemiche? È una fine normalissima, cioè normalissima nel senso che non c'è niente di strano o di cui non andare fieri, capito? È una fine normalissima, ripeto, non posso spoilerarla, sarebbe meglio se ne parlassi, ma meglio di no. E chiaramente ci sono più endings, ce ne sono tre se non sbaglio. Tutte e tre alla fine sono simili, però diciamo che non c'è quella cosa che ti viene da dire, oh, che brutta questa fine, orribile, Invece io l'ho trovata, anzi, fatta molto bene, mi è piaciuta, l'ho trovata coraggiosa nel senso che non se ne vedono molto in questa maniera. Almeno la fine che ho ricevuto io. E anche gli ultimi istanti del gioco, gli ultimi istanti della fine, hanno un qualcosa di epico che secondo me chiude benissimo tutto Mass Effect 3. Comunque, parlando del gioco in generale, Mass Effect 3 alla fine, dopo tutte le polemiche, dopo la fine, i finali e i DLC, è un bel gioco o no? Allora, io vi dico questo, io ho passato una ventina di ore, l'ho finito più o meno in 23-24 ore, un 24 ore di gioco piacevoli, devo dire la verità. Però ho avuto questa sensazione continua che si potesse fare qualcosa di più. Cioè, parliamoci chiaro, le missioni secondarie in Mass Effect 2 sono quasi inesistenti e se ci sono sono tutte simili. E questo posso dirlo perché non sono uno spoiler, cioè si tratta di andare in giro per la le galassie a prendere le cose sui pianeti, senza atterrare sui pianeti, quindi non c'è componente di esplorazione. Prendere le cose con le sonde, riportarle e finito la missione secondaria, questo è tutto quanto. Poi ci sono le missioni pseudo secondarie, nel senso che tu, che non sono, diciamo... non sono relative al finale, per non essere fin troppo spoilerone, che tu puoi fare o non fare. Sì, sono simpatiche, però il fatto è che Mass Effect 3 continua su un paradigma che è sempre lo stesso, cioè atterri sul pianeta, orda di nemici, sconfiggi i nemici, vai avanti 5 minuti, magari bypassi la porta, orda di nemici, vai avanti 5 minuti, orda di nemici, poi magari scena in grafica, appunto, orda di nemici, poi finisce il livello e finito la missione. E questa è una missione principale, è una cosa che pesa dopo un po' di tempo. Nonostante Mass Effect abbia comunque una componente di combattimento fatta abbastanza bene, io ho sempre questa sensazione, ce l'ho da Mass Effect 1, che il gioco si possa finire anche con l'armatura base e anche con le armi base. Non è so possibile, perché. Io l'ho fatto con Mass Effect 2. Sì, nel senso, perché mi che devi non dare... sapevi cambiarle, di' la verità, Lu. No, è che... No, l'ho fatto perché l'ho finito due volte, in realtà, perché... Cioè, si può fare, comunque. Sì, si può fare, io ho sempre questa sensazione, l'ho avuto anche con Mass Effect 3. E che senso ha allora darmi tutti quelle armi, darmi le armature, darmi, vabbè, forse i punti esperienza in un qualche modo possono servire. Però diciamo la verità, la componente RPG in Mass Effect 3 almeno è quasi totalmente scomparsa e non ha senso. I rapporti tra i personaggi sì, ci stanno, però sono parecchio deboli, nel senso che se andiamo a vedere i rapporti con i personaggi con nel Mass Effect 2 erano molto più introspettivi, erano più concentrati sulla storia del personaggio. Qua molte cose vengono date per scontato, non lo so, molte cose non si capiscono neanche, molte parti del plot si saltano a volte, certe volte non si capisce bene perché Shepard si trovi in quella posizione, in quel mondo, che cosa sta facendo. È tutto un po' confuso in Mass Effect 3. Ci sono delle continue sensazioni in cui c'è un senso di vuoto in quello che si sta facendo e sembra quasi che il gioco intero sia scriptato, però in qualche modo, non so perché, nonostante questi problemi, a me è piaciuto anche abbastanza. Non direi che da questo non partirei dicendo che è un gioco dell'anno, nel senso che io nell'anno mi aspetto ma parecchio di più di Mass Effect 3. Secondo me lo standard è molto basso, purtroppo, Però devo dire la verità, alla fine sono 20-25 ore di gioco molto godibili, abbastanza divertenti, magari un po' ripetitive, però tralasciando questi problemi Mass Effect 3 è davvero un gran bel gioco. E poi, seconda cosa che ho giocato, e qua sono molto molto veloce, allora non sapevo che fare, quindi sono andato a GameStop, ho comprato Kid Icarus per 3DS, ho giocato tipo 2 ore. Guardate, Kid Icarus secondo me al momento è il miglior gioco su 3DS. È un po' scomodo in effetti, però diciamo così, ne parlo meglio nella prossima puntata che magari l'avrò finito. Comunque, a nota a margine, vi consiglio di comprare il 3DS se non avete ancora una console portatile come questi tre qua che mi accompagnano, che console portatile manco a regalargliele. 3DS è davvero una bella console portatile. Detto questo, vabbè, mi chiudo, mi spengo. Ti chiudi e passiamo a breve nota. Io non porto Time to Play veri e propri perché dall'ultimo Nerdcast non ho giocato a giochi nuovi, però io e Garriden abbiamo in progetto su Minecraft di costruire una versione dell'Università della Calabria in scala, avendo a disposizione comunque cubi. Abbiamo deciso di portare avanti questo progetto particolarmente ambizioso. Garriden, ti sento spento. Sì, no, ci sono. Ah, okay. Sto ascoltando in silenzio e sto pensando che è stata una pessima idea di dirti malato, sto pensando. Vabbè, ma me l'hai proposto tu, d'altronde. Cioè, insomma, io ci sto, lo sai che... Non l'avessi mai fatto. In queste follie costruttive io ti accompagno. Comunque, parliamo di qualcosa di più serio. Botanicula, Garriden. Oh, caspita, mi fai dare la parentesi indie di Nerdcast. Molto bene, ragazzi, vi abbiamo dato Indie Nerds la volta scorsa, vi abbiamo parlato di un paio di giochini simili. Io ho continuato a giocare qualcuno di questi e uno di questi è proprio Botanicula. Credo sia il modo corretto di dirlo. Che cos'è Botanicula? È il solito giochino indie, è proprio come ve l'aspettereste. Grafica carina, bei disegni. Siete sostanzialmente su questi alberi e dovete combattere una minaccia che sono delle specie di, non lo so neanche io che sono delle palline di pelo nere, sono dei cosi neri, ok? E sostanzialmente questi si stanno succhiando la linfa vitale di questi alberi. La storia è già sentita. Voi siete un gruppo di ortaggi? Che cazzo sono quei cosi? Non l'ho ancora capito, mi credete? Ho finito il gioco e ancora non sono riuscito a motivarmi che sono quei cosi, a parte un ramoscello che era chiaro. Com'è il gioco sostanzialmente? È bello, è molto bello ed è piacevole da giocare. Ha delle musiche simpatiche, carine, ha degli effetti sonori molto molto belli e un sacco di cose curate a livello sia di sonoro che di interattività. In particolare mi ricordo c'era ad esempio un mostro che si tendeva e a seconda di come si tendeva produceva una nota. Ed era molto simpatico da giocare, ok? È pieno di queste piccole cose, Botanicula. Parlando del gioco in sé, che gioco è? È un gioco di avventura, ok? È un gioco di avventura classica, punta e clicca. È molto semplice da giocare e sono molto semplici le meccaniche. Ogni tanto, devo dirlo, sono un po' troppo semplici. Cioè, potrebbe sembrarvi un po' infantile questo gioco, ok? Man mano strada facendo diventano un pochino più articolate, ma nel complesso sempre molto godibili. Ed è questo che mi è piaciuto in tutta onestà, il fatto che è estremamente godibile. Cioè io la sera quando arrivo a casa non mi vado a giocare al gioco complicato, mi vado a giocare sempre queste cagate qui e le gioco con piacere. Un'altra cosa che mi ha snervato ma era simpatica è che anche se il gioco è disponibile in 12 lingue, nessuno parla in tutto il gioco, bensì fanno delle sorte di flashback con nuvolette e cose simili, che veramente alcuni personaggi fanno in modo snervante. Molto indie comunque. Sì, assolutamente indie, è assolutamente bello comunque, giocatelo. E tra l'altro, se posso aprire una parentesi, voi che siete gli amanti della piracy e di tutta questa pirateria informatica, questo è un gioco DRM free, come cazzo si chiama lui, In sostanza non ha protezioni, se te lo vuoi duplicare te lo duplichi, lo giochi. È stata una scelta dei produttori proprio perché ogni tanto questi sistemi di protezione possono dare fastidio a chi ha pagato il prodotto. È una, come dire, è la fiducia che i produttori vi danno danno a voi consumatori. Quindi io dico, apprezzate questa cosa. Se il gioco è bello, compratelo, sono 15 euro, è un prezzo indie anche questo, e secondo me ci valgono pure, ok? Detto questo, vi apro giusto una piccola parentesi. In questo periodo ho giocato anche Ryzen, perché, ahimè, non lo avevo giocato, o meglio, lo avevo solo aperto e chiuso, e volevo giocare Ryzen 2, visto che tutti ne parlano, e sono rimasto folgorato. Cioè, Ryzen è gothic, è veramente gothic. Io pensavo, vabbè, sono solo Piranha Bytes, stessi produttori. No, no, è proprio gothic, lo hanno preso, hanno cambiato la grafica, ma è gothic. Hanno cambiato i nomi ai personaggi, ma è gothic. Tra parentesi, il vostro personaggio non ha nome, quindi è davvero gothic. Nel complesso, questa è stata una scoperta piuttosto piacevole man mano che andavo avanti, perché a me onestamente Gothic è piaciuto moltissimo, è uno fra i miei giochi preferiti in assoluto, e Ryzen, devo dire, è costruito molto bene, ha veramente tutto quello che aveva Gothic e anche di più. Se non avete giocato Gothic perché era troppo retro per voi, non è molto retro, ma ammetto che era poco giocabile, veramente chi ha fatto il sistema di controllo di Gothic qualche canna se l'era fatta. Ryzen è molto più giocabile, provatelo, ha tutto quello spirito, ha tutta quella roba lì, e soprattutto non è omofobo quanto lo era Gothic. Voglio motivare quest'ultima cosa. Omofobo non è la parola giusta, non è misogino. L'altra volta, parlando su Twitter con un amico, lui mi ha fatto notare questa cosa che io avevo completamente rimosso. Ragazzi, Gothic era un gioco veramente misogino, questa non è una cosa bella. Cioè, io non sono il moralista del cavolo che viene a dirvi che bisogna amare le donne o che altro, però fare un gioco in cui non ci sono donne, l'unica donna che c'è è la schiava del padrone, vi lascia pensare, ok? Senza dubbio era una scelta... era in tema con la storia, però non è stata una scelta piacevole. Se andate sui forum della Piranha Bytes, ci sono un sacco di lotte fatte, cioè di post cattivi fatti da donne, che sono stati cancellati. Alcuni di questi sono stati cancellati proprio perché non sono accettati i pareri dalle donne. Ora, forse Urca. Forse sono leggende metropolitane, ma addirittura sul forum della Deep Silver, che ha pubblicato Ryzen e non lo ha sviluppato, ho letto il post di una persona, di una ragazza che si lamentava. C'era scritto: Piranha Bytes cerca programmatori, e lei si è rifiutata perché ha detto: io non vado a fare il caffè a quei porci della Piranha Bytes. E quelli della Deep Silver non hanno smentito nulla, hanno fatto: ci dispiace che la pensi così, l'unico modo di cambiare è provare. Ok? No, io mamma mia. Non so che dirvi, posso dirvi soltanto che Gothic era un bel gioco, ma aveva questa pecca. Fortunatamente in Ryzen ci sono delle donne, sono tettone, sono più che altro anche loro abbastanza smerdate, ma almeno ci sono. Con questo chiudo il mio time to play, che è stato un po' moralista, ma secondo me non è una cosa carina questa, ok? No, assolutamente, anzi è... Io personalmente non la sapevo, e neanche Murtag dalla reazione, no. Probabilmente, quindi insomma. È tragica. No, veramente. È terribile. Cioè, ma oggi stiamo sentendo un sacco di notizie sconvolgenti, dai fan che cambiano le trame dei giochi alle case produttrici che si fanno fare il caffè dalle loro programmatrici, insomma, cioè una cosa... Vabbè, che dobbiamo fare? Ma questo perché il mondo di oggi è tutto il mondo di oggi, è tutto sbagliato. Si stava meglio quando si stava peggio, e proprio in vena di tempi nostalgici partiamo con il nostro Retrospace. Sigla. Oh, bene, io vedo tanti titoli veramente interessanti. C'è quello di Murtag, che ha toccato veramente un tasto nascosto della mia infanzia, che io personalmente avevo rimosso. Cioè, io con The Neverhood ci ho passato non lo so, la vita Murtag, cioè, non sai, è un gioco, non mi capacito neanche di come io non abbia potuto pensarci prima a portare The Neverhood come retro game, quindi ti lascio l'onore, diciamo. No, ma neanch'io in effetti. Cioè, è capitato perché... Allora, è un gioco che mi aveva fatto scoprire mia sorella, che una volta era una gamer, adesso no. Però, praticamente qualche giorno fa mia sorella entra in camera col disco di The Neverhood e mi dice: ah, te lo ricordi questo? Io a un certo punto mi sono messo a piangere come un idiota, perché The Neverhood è qualcosa di... extrasensoriale. Allora, partiamo dalle radici. Allora, The Neverhood, gioco del 1996, fatto, attenzione, da DreamWorks, dalla DreamWorks, gioco sia per PlayStation che per PC. Dunque, più che parlarvi della storia di The Neverhood, prima sottolineiamo un fatto. The Neverhood possiamo chiamarlo un punto e clicca, diciamo un'avventura grafica più o meno, fatta in claymation, in cui si manovra questo personaggio molto strano, molto emblematico. Pensate un po' ad un bambino di 4-5 anni, io avrò avuto tipo 5-6 anni quando ho giocato The Neverhood, che manovrava questo personaggio molto strano fatto in claymation, in questo mondo molto futuristico. Io sono sicuro che alla DreamWorks, non lo so, si erano fatti acidi su acidi per immaginare un mondo del genere, perché è inconcepibile, fatto tutto appunto in claymation. The Neverhood è... diciamo generalmente un punto e clicca, però ad un certo punto dal nulla diventa un gioco in prima persona, dove tu controlli il personaggio che vedevi neanche in terza persona, in 2D fino a quel punto, e il gioco cambia completamente, poi ritorna di nuovo ad essere un'avventura grafica. Poi ci sono dei momenti in cui non si capisce bene che tipologia di gioco è. Cioè, la parola fondamentale che descrive The Neverhood è la stranezza, la confusione, ma anche l'epifania che ti dà quel mondo. Cioè, nel continuare a giocare a The Neverhood, tu non pensi tanto a quello che devi fare, a come superare una certa parte. Esatto, forse è lo starci dentro, cazzo, perché è qualcosa di allucinante. Io ti dirò, quando ho riletto la trama del gioco, visto che sapevo che tu ne avresti parlato, mi sono capacitato del fatto che probabilmente non avevo mai saputo di che cosa parlasse effettivamente, o di quale fosse la storia, sì, di fondo. Cioè... Sì, è questo. Sì, esatto. Non ho mai capito un cazzo di quello che ci fosse. Però era bellissimo. Era bellissimo. Ti ricordi quando c'erano le videocassette che tu trovavi per terra per ricomporre la storia del mondo? Che poi mi sembra che è trovare tutte le cassette ciò che ti fa terminare il gioco, tipo qualcosa del genere. Mi pare, ma poi la frustrazione a trovare la cassetta numero 12 quando ti mancano tutte quelle di prima. E mamma tu non sai mia. Che cosa è successo prima, che cosa e devi vedere fare. Il film a pezzi è qualcosa di allucinante. Poi quel mondo è tutto allucinante, nel senso che ti fa entrare in un trip senza l'utilizzo di droghe. È quello il fatto. Poi vabbè, chiaramente io qua rischio di ripetermi, però le musiche, ragazzi, pure gli effetti sonori, ma è geniale, tutto geniale quello che è dietro quel gioco. Cioè, davvero, come diceva prima Rampage, non riesco a capire perché ad un certo punto me lo sia dimenticato. È come se fosse stato un puntino nella mia storia di videogiocatore che ho voluto tenere un attimo da parte, perché ha rappresentato un'esperienza per me di gioco completamente diversa da qualsiasi... Cioè, so che lo dico per qualsiasi gioco che porto, questo forse è vero, però davvero The Neverhood è stata... è stato entrare in un mondo... cioè, è stato capire che nei videogiochi c'è anche qualcosa che non potresti mai immaginare. Cioè, non vorrei esagerare, ma forse è forse proprio da The Neverhood che io ho capito che avrei praticamente videogiocato per anni e anni a venire, se questo era il potenziale dei videogiochi. Non so voi, perché so che anche voi avete giocato The Neverhood, per esempio Garriden, non lo so. Sì, no, guarda, È vera questa cosa che dici, ma se, per aprire la parentesi su The Neverhood, a me piace davvero tanto come è stato girato The Neverhood, insomma. Cioè, mi entusiasma veramente vedere un gioco in claymation. Sono pochi, indubbiamente. Ah, ma forse io non l'ho mai visto un altro gioco in claymation. Il vostro granchio, il vostro granchio. Ma poi tutti quegli effetti sonori che faceva il personaggio principale... Cioè, a un certo punto c'è un enigma in cui tu devi utilizzare l'acqua in dei tubicini per fare delle onde sonore che generano una melodia che fa aprire una porta. Una cosa mi ricordo. Complicatissima. No? Che poi, cioè, non ricordo in realtà se fosse facile o difficile, però io ricordo che da bambino almeno... Io ero piccolo. Cioè piccolo, pure io 5-6 anni, cioè. Mi ricordo che pensavo, no, ma questo gioco non lo finirò mai. Esatto. Mi pare di averlo finito poi, no, però invece, tipo 13-14 sì, anni. Sì, a un certo punto finì. Cioè, io mi ricordo che a un certo punto esce fuori un grosso supereroe, tipo una cosa che risvegli tu e che risvegliano le cassette, appunto, quando finisci di metterla lì. Però non ne sono esattamente convinto, perché c'è la parte alla fine che tu devi decidere se diventare re. Oppure non mi ricordo, c'è una confusione a livello gerarchico. Alla fine tu puoi fare, dovresti fare una scelta, poi alla fine fai la scelta del buono. E poi, leggendo la trama del gioco su Wikipedia, mi sono reso conto che loro dicono che poi a un certo punto tu vieni risucchiato da un tunnel spazio-temporale, poi succede un casino, altra gente, altri personaggi vengono risucchiati da questi vortici, quindi adesso capisco perché non mi ricordo più niente della trama di sto gioco, perché effettivamente è una pazzia, cioè non ha alcun senso. Mi ricorda Guida Galattica per autostoppisti. Come fa un bambino di 5 anni a ricordarsi una cosa del genere, no? Capito? Quindi è chiaro che ti manda in confusione e ti crea delle disfunzioni per il tempo in cui ci giochi. Comunque, è allucinante. Sì, pazzesco. Comunque giocate The Neverhood, se no venite radiati dalla vita proprio. Sì, ma tanto non giocarlo a 5 anni e all'epoca è... Sì, è vero. Non è inutile. Forse non è neanche così bello adesso, non lo so, però... Bah. Comunque, un'esperienza, non un gioco, un'esperienza. Vabbè, io porto un gioco che invece ho giocato veramente tanto tempo. È stato il primo gioco che mi ha fatto veramente odiare il fatto che tu non potessi avere da subito il tuo personaggio costruito al massimo, perché dovevi aggiungere dei pezzi che ti costavano, insomma. Sto parlando di MechWarrior. MechWarrior è un gioco di Activision dell'89, che penso che conosciamo un po' tutti. Anche di questo gioco la trama non me la ricordo assolutamente, l'ho letta ma non mi va di parlarne perché penso sia del tutto irrilevante. Ciò che è figo in MechWarrior è che è stato uno dei primi giochi che appunto dava la possibilità di modificare il proprio personaggio, essendo noi un robot costituito da più parti. Potevamo mettere mitragliatori di un certo tipo, lanciamissili che ci aiutassero, insomma, a portare avanti le missioni con più o meno facilità. Le missioni, alla fine, anche se c'è una trama, vengono proposte al giocatore come quei famosi contratti. Ci pensate, ragazzi, i giochi di quel periodo avevano le case produttrici avevano l'abitudine di mettere le quest all'interno dei giochi proposte come contratti da agenzie segrete. Prendete tipo 007, GoldenEye o altri, insomma. Cioè, alla fine io ho questa immagine stampata di un gioco casuale che può rappresentare tutti i giochi che ho giocato, in cui a un certo punto compare una serie di scritte che vengono un testo che viene scritto in tempo reale, che ti dice quello che tu devi fare e poi tu vai e fai la missione. Uguale MechWarrior, funziona anche lui così. Non mi va di indugiare oltre. Era un gioco veramente figo perché, insomma, era un FPS comunque. Era un FPS. Ha la grafica vettoriale e questo lo rende estremamente robotica come esperienza. Cioè, molto, molto strana come cosa. E le musichette erano veramente incredibili, cioè c'erano delle musiche veramente cattive mentre tu sparavi questi carri armati, questi gli altri robot, insomma. E poi i sistemi di combattimento erano veramente fatti con un certo impegno, devo dire. Quando si combatteva in più persone, gli NPC ripiegavano nel momento in cui le loro difese vitali avevano superato una certa soglia minima, quindi se ne andavano da soli ti lasciavano contro eserciti di robot da solo, oppure a seconda di dove venivi colpito c'era un display nel gioco che ti mostrava se la tua gamba destra era ferita o se il tuo art, cioè insomma era molto complicato da questo punto di vista. Infatti io non penso di averci mai capito molto all'età in cui ci giocavo, però era comunque un gran bel gioco, insomma. Garriden? Bene, allora io vi porto sostanzialmente una roba che più retro non si può. Per parlarci chiaro, molti lo considerano il primo first person shooter game in 3D. Ora, non so se quanto possa essere vera questa definizione, ma sostanzialmente Catacomb 3D è id Software, è fatto da John Carmack ed è uno dei primissimi ad essere 3D. Perché è uno dei primi? Lo potete notare anche voi, se lo installate è veramente qualcosa di pauroso, è veramente, come dire, minimal, ok? Per darvi un'idea, non c'è soffitto in tutto quanto il gioco, non c'è renderizzato proprio il soffitto, la trama è inesistente, sostanzialmente voi siete il mago più potente del mondo che non si capisce per quale motivo deve fottere un leech che si è ribellato e che ha preso anche un suo amico con lui, scusate, un vostro amico intendevo, e niente, il bello di questo gioco è veramente il game design pauroso, cioè a me i livelli di Catacomb sono sempre piaciuti moltissimo per i colori, per come sono disegnati. Ora se aprite il primo livello e vedete tutto grigio pensate che vi prendo per il sedere, però man mano se andate avanti troverete che ogni livello ha il proprio colore, ha il proprio modo di essere, e soprattutto ci sarebbe da dire che a mio parere questo gioco è fottutamente claustrofobico, nel senso che il personaggio, sarà per come si gira con i tasti, ma non lo so, non riesce mai a vedere bene negli angoli. Io ricordo da quando ero più piccolo mi prendeva sempre uno spavento a giocarci, perché non vedere un mostro è molto facile in Catacomb, sarà che non so, sono disposte anche in un certo modo le pareti. E un'altra cosa standard in questo gioco è che la metà delle pareti sono pareti segrete, voi ci sparate sopra e si distruggono, cosa che non ho mai capito, però tutto il gioco va avanti così. Altre particolarità, avete colpi infiniti, questa è una cosa che logicamente molti shooter hanno lasciato perdere, però devo dire dà una certa soddisfazione avere i colpi infiniti, nel senso che l'unica cosa di cui dovete preoccuparvi è la vostra vita. Power play, ragazzi, del cazzo. No, vabbè, devo dire una cosa, che Catacomb ha una cosa particolare, ossia non c'è un indicatore della vostra vita, è l'indicatore vecchio stile dove c'è la vostra faccia che man mano diventa uno scheletro, quindi non avete proprio sempre idea con precisione di quanta vita avete, come sarà poi in Doom. Non solo, avete un paio di super armi che non si usano mai, che sparano in tutte le direzioni, le userete pochissimo. Niente, sostanzialmente è un gioco da giocare a mio parere, è bello, è divertente, ha una sola musica che si ripete di continuo in tutto il gioco, per darvi un'idea di quanto è basic, e un paio di suoni di PC speaker, niente di più. Che dire, giocatelo, secondo me deve essere giocato, ecco. Io leggo qua che si uccidono robot, alieni e maghi. Cioè, sì, tutto lo scibile della fantasy si ammazza in questo gioco. È una bella porcheria a livello di mischiata. No, ma non solo, non l'ho detto, però c'è il classico gioco dove devi acchiappare le chiavi per aprire porte. Sostanzialmente tutto il gioco lo passi così. Questa è una cosa fottutamente retro. Le chiavi. Le chiavi, poi, tra l'altro, davvero, mamma, le chiavi. se posso, a sì. me la grafica di Catacomb 3D sembra praticamente un Commander Keen. Hai detto bene, FPS. Hai detto bene, perché è Commander Keen 4, non mi ricordo se 4 o 6, il motore è di quello, l'hanno solo portato in 3D, i colori sono quelli. Sì, che gli esseri umani hanno la pelle bianca per qualche motivo. Hai ragione, hai ragione, hai fatto un'ottima osservazione. Bello, bello, un essere bovino. Beh, che dire, magari è anche il caso di terminare, chiudere questa lunga... Siamo stati lunghi, eh? No, siamo stati il giusto in realtà, perché alla fine io vedo che stiamo registrando un paio d'ore alla fine. Sì, un paio d'ore qualcosa, effettivamente. Dai, sono stati pieni di contenuti, va. Esatto, esatto. Mallomen è vivo ancora? Mallomen è morto a un certo punto. Sì, sì, è morto a un certo punto. Non sarei più sentito parlare. Vabbè, è stato risucchiato da un buco nero nella sua stanza. Che dobbiamo fare? Va bene, ragazzi. Allora, per terminare, vi ricordo i contatti. Inizio dal blog perché l'ho sbagliato all'inizio della puntata: nerdpodcast.blogspot.com. Ci trovate anche su Twitter con l'account comune comunista Nerdfats, che sarebbe anche l'account di Murtag, perché Puppets for Real non ho account. Inutile di... Vabbè, non ce l'ha Twitter Murtag, quindi non lo andate a cercare. Io sono invece Wish Freedom, abbiamo invece Guardian come Devil Seal 92 e Mallomen coloritamente ancora Mallomen. Dopodiché abbiamo adesso un canale YouTube che si è aperto con la mia rubrica personale, che lo trovate come Nerdocast. Su Facebook ci trovate come Nerdcast, e penso che la nostra identità digitale sia finita. Che no, dire? Aspetta. No, qualcosa, l'email. Allora, siamo su Facebook. T'ho detto. Siamo su Facebook per i non brasiliani, per favore. Ecco. Sì, infatti, cazzo. Sì, è importante chiarirlo, perché ci hanno rotto i coglioni. E poi su iTunes ci trovate digitando Nerdcast, su iTunes Store. Perfetto, perfetto. Allora, che dire? Stay nerd, stay foolish. Ci vediamo a giugno, se... Sì, ci vediamo a giugno. Assolutamente. Ci vediamo a giugno con la prossima puntata di Nerdcast. È stato un piacere. Qui è Rampage, Murtag, Garriden e infine Mallomen, il defunto Mallomen. Vi lasciamo con una canzone dei Plug and Play, Until Our Worlds Crash Down. Alla prossima, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. See ya. Ciao. Useless in this room. Do I have something?